partnership study date? Un, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici, dodici, tredici, quattordici, quindici, sedici, diciassette, diciotto, diciannove. Oh, vediamo cosa si potrebbe leggere. Vietate di non fumare. Qui cosa dicono? Si può sentire anche da qua. Dunque, gli ospiti di San Nicolò si sentono d'accordo con il mio fumatore da fuori. Una volta, magari da loro, le persone per la casa, per l'invitato, per le cose, loro, per le leggi, le automatiche, le maggiori classi, il piatto del domenica, ci potrebbe vediamo. Le premesse sulle quali si fondano le nostre riflessioni, cioè quelle precomprensioni sulle quali io fondo le mie riflessioni. Terzo, affronto della triplice problematica, affronto nel numero terzo e quarto un primo gruppo di problemi e un secondo gruppo di problemi. Nel numero terzo affronterei il problema del dialogo interdisciplinare tra teologia e psicologia. Quali sono le condizioni perché si abbia un autentico dialogo? E quarto, il problema dell'incidenza delle teorie psicologiche sul metodo teologico. È, come dire, è osare troppo affrontare tutti questi problemi, ma d'altra parte ci si trova dentro e uno cerca di correre, cerca di arrivare a una meta. La meta, tuttavia, arrivato al fondo, la si vede molto lontana. Come conclusione metterò dei problemi, non sono arrivato a delle conclusioni. Mi dispiace, ma almeno io non sono riuscito a chiarire molte di queste cose. Vi dirò comunque, primo punto allora, tre gruppi di problemi, quali sono? Primo è il problema del dialogo interdisciplinare tra teologia e psicologia. Un secondo gruppo di problemi è quello dell'utilizzazione delle tecniche psicologiche, soprattutto nella prassi pastorale. Prassi pastorale intesa in senso molto vasto. Terzo è il problema dell'incidenza delle teorie psicologiche sul metodo teologico. E veniamo al primo gruppo di problemi. L'ampio sviluppo che la psicologia della religione e della morale da una parte e la teologia pastorale dall'altra hanno conosciuto in questi ultimi decenni, pensate per la teologia pastorale alla Praktische Theologie heute, quel volume abbastanza dove c'è tutta una panoramica, per la psicologia della religione, per accennare a un manuale immediato, ecco, vedete, psicologia della religione di Aletti e Milanesi, avete subito un'idea di questa. Ora, da una parte allora, quest'ampio sviluppo che la psicologia della religione e della morale e la teologia pastorale hanno conosciuto in questi ultimi decenni, come pure il riconoscimento in campo cristiano della legittimità delle famose teologie con il genitivo di oggetto, tra le quali la teologia dell'educazione, hanno fatto sì che una stessa realtà, educazione cristiana, fede, religiosità infantile e adulta, divenisse sempre più frequentemente oggetto di ricerca critica da parte delle due scienze, psicologia e teologia, e conseguentemente che teologi e psicologi, ma principalmente i teologi, sentissero la necessità di instaurare tra loro un dialogo interdisciplinare. Ora, da questa situazione sono emersi alcuni problemi di natura epistemologica e io li elenco. Anzitutto, il problema della diversa angolatura secondo la quale le due scienze studiano questa realtà psicologica, per esempio la religiosità infantile e adulta. Cioè è il problema dell'oggetto e del metodo scientifico di ciascuna delle due scienze, qual è l'elemento che le qualifica e le differenzia e le giustifica in quanto scienze. Strettamente connesso con questo problema ne esiste un altro, quello del rapporto che le due scienze potranno e dovranno instaurare tra loro, una volta che sia chiarita la natura di ciascuna come scienza. E ciò a causa di quello statuto epistemologico particolare della teologia, la quale, a dire di tutti, non sembra una scienza come tutte le altre. Ci si chiede: in quale rapporto sta la teologia con la psicologia? È un rapporto gerarchico oppure è un rapporto puramente e semplicemente dialogico? E di che tipo? Vedremo, come dirò subito, esistono parecchi modelli in questo senso. Il problema che sta qui sotto è: nonostante la peculiarità dello statuto epistemologico, la teologia può essere considerata una scienza omologa alle altre scienze antropologiche? Può essere considerata una scienza omologa alla psicologia? E finalmente, se tra psicologia e teologia è possibile un rapporto dialogico fondato su una omologia di fondo, quali sono le condizioni perché tra le due scienze si possa instaurare un dialogo interdisciplinare diretto e autentico? Ora, per quanto mi consta, allo stato attuale delle ricerche, esistono molteplici modelli di soluzione di questa problematica, che è principalmente di natura epistemologica, i quali tentano di soddisfare le esigenze delle due scienze e permettere tra loro una proficua collaborazione. A mio giudizio, tutti questi modelli sono problematici. Lo Scharfenberg, guardando il rapporto tra la teologia pratica e la psicologia nelle sue diverse denominazioni, ne vede quattro. Li enuncio: il modello chiamato scienze ausiliarie, Hilfswissenschaften, no? Il modello chiamato critica della religione, Religionskritik. Il modello tillichiano della cooperazione, della collaborazione. E finalmente il modello prevalenza statunitense e americano della teologia come psicologia. Cioè, se voi notate, abbiamo un modello anzitutto di pura utilizzazione e non di dialogo. La psicologia diventa una scienza ausiliaria della teologia, cioè si assumono teorie e prassi psicologiche sganciate dai loro presupposti antropologici, cioè dalle ideologie su cui si fondano e a cui sono connesse necessariamente, si amalgamano con una antropologia teologica o di tipo teorico, pratico, progettuale, in funzione della nascita di una specie di psicologia cristiana, di terapia cristiana e cose del genere. Per esempio, si prende la teoria della personalità di Allport, oppure di Maslow, oppure si prende la teoria della personalità di tipo freudiano o ericksoniano, più che altro in genere si ricorre a Erickson. Poi la si sgancia, la si taglia, la si aggiusta e la si inserisce in una teoria teologica della maturità cristiana. È comune questo procedimento. È possibile, è legittimo, è valido. Secondo, il modello della critica della religione, che io chiamerei modello funzionalista, è la psicologia, in particolare la psicanalisi, con le debite correzioni, può essere utilizzata per il superamento di forme nevrotiche della fede, della morale e della religiosità. L'iniziatore è il famoso pastore Pfister, quello che dal 1908 cominciò il dialogo per iscritto con Freud, no? Naturalmente, in questo caso si libera prima dalla visione del mondo atea anticristiana, la si corregge interiormente, il principio del piacere, per esempio della onnipotenza del piacere, viene sostituito da quello del rapporto dialettico tra piacere ed esperienza della realtà, attraverso il realità, Realitätsdenken, il pensare secondo la realtà. Questo modello in America è portato avanti da Lee, un teologo americano. In questa linea, in parte soltanto, soltanto in parte, c'è anche Poyer delle prime opere, il Poyer di psicologia e teologia, anche Au nom du Père, ma non completamente. Trovate qualche cosa di analogo, di cui questo tipo, nel supplement, di spirituel supplement, no? E poi ultimamente soltanto le supplement, no? Dove diversi autori hanno tentato di utilizzare o di vedere il rapporto tra psicologia, psicanalisi e la fede, c'è un tentativo di utilizzazione, però non nel senso di prima. Il modello invece cooperativo di Tillich, che ha come suo fondamento il principio della correlazione tra i problemi dell'uomo e la risposta di Dio, e che è connesso ultimamente con la teoria blondeliana, no? Qui teologia e psicologia possono entrare in dialogo, perché in fondo ambedue necessitano di una dottrina sull'uomo, di una specie di ontologia antropologica, che nessuna delle due è in grado di costruire, e che si presuppone qualche cosa che viene fatto dalla filosofia fondamentalmente. In Goldbrunner, Realizzazione, si trova qualcosa di analogo, dove la psicologia entra in dialogo non più con, per esempio, la teoria freudiana, quanto piuttosto con quella junghiana. Qui avremmo un dialogo ma mediato. È un dialogo non diretto, mediato dalla filosofia. Anche Poyer ritiene che non è possibile un dialogo tra psicologia e teologia se non attraverso la mediazione della filosofia. E anche su questo io pongo un interrogativo, non è che lo vedo molto chiaro anche questo, proprio per il fatto: cos'è questa filosofia? Che tipo di filosofia è? Una filosofia per Ennis o qualche cosa o qualche altra cosa? Poi, finalmente, l'ultimo modello è il modello, chiamiamolo così, è il superamento del dialogo verso l'identificazione. La Divinity School dell'Università di Chicago tenta di superare le divisioni nette tra scienze umane e teologia. Homans, l'autore che è più citato, dipende molto dalle teorie di Erickson, no? E tenta di ricavare dalla psicologia, dalle moderne teorie psicologiche, soprattutto di tipo ericksoniano, nuove possibilità, nuovi mezzi ermeneutici per reinterpretare radicalmente la tradizione cristiana. Ne viene fuori una specie di psicologia di teologia che è una psicologia della religione, che supera completamente il modello cooperativo di Tillich. Ecco, io ho voluto mettervi di fronte a questo perché il teologo, in questo caso il teologo che fa teologia fondamentale, non può pensare di dire: ecco, io mi metto a dialogare con la psicologia, dimenticando che esiste già tutta questa massa di tentativi, e non tratto o non accenno all'altra problematica, a tutti i tentativi. Un autore ha elencato 1300 titoli dal 1908 in poi, tutti i tentativi fatti soprattutto dalla psicologia, dalla psicanalisi, sia ortodossa sia eterodossa, per reinterpretare il cristianesimo, la Bibbia, personaggi, eccetera, eccetera. Quindi c'è tutta un'altra problematica che io non toccherò, perché è completamente fuori dal... Comunque si deve tener conto in qualche modo. Secondo gruppo di problemi, il problema o il gruppo di problemi dell'utilizzazione nella prassi pastorale delle tecniche psicologiche. Questo è molto noto, non insisto, Dopo il Vaticano II, il ricorso nell'ambito della prassi pastorale alle tecniche elaborate dalle scienze psicologiche in funzione del raggiungimento di determinati obiettivi specificamente cristiani è un fatto comune. Gruppi di sacerdoti religiosi e religiose che adoperano la dinamica di gruppo. Si utilizzano test psicologici di tipo sia soltanto di intelligenza, sia già psicodiagnostici più per arrivare alla psicologia del profondo, e si adopera il colloquio di ispirazione psicanalitica per esaminare i candidati al sacerdozio, alla vita religiosa. Si manda dallo psicologo clinico chierici e laici che presentano problemi ritenuti di sua competenza. Si approfitta nella teoria e nella prassi pastorale delle tecniche del counseling, della relazione psicoterapeutica. Però non sempre ci si rende conto che questa prassi implica in qualche modo l'accettazione di concetti e teorie psicologiche che costituiscono l'impalcatura di queste tecniche. Ora, il teologo di fronte a questo fatto sente il problema. Per il teologo questo fa problema. Il suo compito è quello di trovare, se è possibile, di vedere se c'è una giustificazione teorica di questa utilizzazione al di dentro della prassi pastorale, chiarendone presupposti, chiarendone il senso, i limiti, le modalità. Comunque, di fatto, appena si entra al di dentro di questa problematica, si ricade o nel problema del dialogo o nel problema seguente che dirò, cioè il problema dell'incidenza delle teorie psicologiche sul metodo teologico. Quindi l'ho voluta lasciare questa problematica in mezzo alle due perché è una problematica ambigua o meglio, è una problematica che apre sulle altre due problematiche. Terzo gruppo di problemi. Esiste, oltre quelli che abbiamo elencati, un altro problema, quello della utilizzazione delle teorie psicologiche in funzione dell'interpretazione dell'esperienza di fede del cristiano. Notate, non è più l'utilizzazione di qualche pezzo di una teoria, è l'utilizzazione di una teoria integrale. Per me qui sta un problema radicale che è sotteso dagli altri problemi. Qui è in gioco la legittimità dell'introduzione della scienza psicologica, della teoria psicologica, all'interno del metodo della teologia in quanto scienza. Però, a mio giudizio, non è un problema completamente nuovo questo. Cioè, se è vero che nel XIII secolo, quando la teologia si è costituita come scienza speculativa all'interno delle università medievali, ha utilizzato con un'audacia che allora parve veramente enorme le teorie filosofiche nel suo sforzo di intellezione del dato rivelato, è anche vero che appena ha fatto questo ha suscitato problema. La condanna, la triplice condanna di San Tommaso è il segno. È anche vero che l'utilizzazione delle scienze fisiche e astronomiche con Galileo o di quelle biologiche e paleontologiche con Lamarck e Darwin per l'interpretazione della scrittura della dottrina cristiana sulla natura della realtà cosmica e dell'uomo ha continuato a far problema e ha provocato allora e fino recentemente condanne molteplici e poi pentimenti abbastanza tardivi. È anche un fatto che la crisi modernista ha messo a nudo all'inizio del XX secolo lo spinoso problema dell'utilizzazione dei risultati, provvisori quanto volete, del metodo storico-filologico nell'interpretazione dei testi, della scrittura, della tradizione. E oggi, dopo la svolta antropologica, la teologia, costituendosi come ermeneutica critica dell'esperienza di fede della comunità ecclesiale, sente il bisogno di utilizzare anche le teorie formulate dalle scienze antropologiche, non ultima la psicologia, per adempiere, crede, in modo meno inadeguato il suo compito. E questo fa problema. A parte i primi due volumi del Poyer, che non hanno subito condanne, quando Poyer scrive il terzo volume, Quand je dis Dieu, viene condannato, la condanna è del 1977. Perché fa problema? Come mai? Ecco, questo è un punto da tenere presente. Ora, tentare di risolvere, di trovare una soluzione al primo gruppo di problemi, condizioni per un dialogo interdisciplinare, e a questo secondo gruppo di problemi, dunque, non è una cosa facile, evidentemente. E allora, cosa bisognava fare? Io ho scelto una strada, ed è stata questa. Mi sono messo a leggere attentamente, leggere e rileggere il cammino che ha fatto il Poirier. Nel 67, nel suo volume Psicologia e Teologia, tenta di definire i criteri per una utilizzazione integrale della teoria piagetiana dello sviluppo dell'intelligenza per spiegare il divenire della fede. Allora, su che cosa si fonda questo tentativo di introdurre nel metodo teologico una teoria psicologica? Secondo, quando ha raccolto nel volume O non di per, Recherche théologique psychoanalytique, no? Quando ha tentato di raccogliere scritti pubblicati precedentemente, nei quali fisse i canoni metodologici per una corretta utilizzazione della teoria psicanalitica, soprattutto del complesso di Edipo, in funzione della chiarificazione di alcune fondamentali dottrine cristiane, per esempio del rapporto padre-figlio nella Trinità, nell'incarnazione, nel rapporto della vita noi e il Padre Celeste. Ecco, qui c'è un altro tentativo di prendere una teoria, ma non ritagliandola, ma pigliandola così com'è e utilizzandola nella strumentazione strettamente teologica. E finalmente l'ultimo tentativo, lui oramai analizzato, liberato interiormente, che si lascia prendere dal desiderio di esprimere quello che sente dentro, e lo dice senza remore, senza hemungen, no? Interiori, lo dice così come viene, e provoca la condanna, perché effettivamente, almeno io l'ho letto più volte questo libro, ma in certi momenti non si riesce a entrare. Dice delle cose splendide dentro, lo devo confessare, ci sono delle cose splendide dentro, ma ci sono delle cose che ti lasciano estremamente perplesso. Quando nel 1973 il Convegno Teologico Triveneto affronta il problema psicologia e teologia e chiama gli psicologi a mettere in luce alcuni problemi, cosa viene? Viene scoperto che il teologo, nell'esercizio del suo mestiere, è estremamente condizionato, ed è un altro aspetto che riguarda più la persona, ma indirettamente incide sul metodo. E finalmente Molari, in uno degli ultimi numeri del Regno Documenti, il 1 febbraio dell'80, no, pubblica appunto una relazione di Molari dove affronta il problema inconscio e psicologia e cerca di mettere coraggiosamente in luce l'incidenza che l'accettazione della psicologia dell'inconscio viene ad avere sul metodo teologico in due settori, concetto di rivelazione e cristologia. Ora, io ho tentato di seguire queste riflessioni per vedere cosa si può costruire, cosa si può ricavare, e ho ricavato dei problemi. Vengo al secondo punto. Quali sono i presupposti sui quali queste riflessioni si fondano? Siccome parlo a teologi, li enuncerò soltanto. Dunque, il primo presupposto è questo: il mio concetto di rivelazione è quello del Vaticano II, della Dei Verbum, no? Eventi e parole, e quindi non insisto su questo punto qui. Seconda affermazione. per me la rivelazione ha un'indole storica, no, lungo tempo, eccetera, e non è mai esistita allo stato puro, cioè è sempre esistita in uno stato di acculturazione. Io preferisco dire acculturazione invece di inculturazione, nel caso poi nella discussione dirò i motivi. E questo vale anche per tutto il procedimento della trasmissione della rivelazione, indole storica e legge della acculturazione, della tradizione. Terza cosa, ritengo che oggetto della fede della comunità cristiana è il mistero, la parola, non le formule. Nessuna formula può esprimere adeguatamente tutta la ricchezza del mistero della parola di Dio, e tuttavia mistero e formule sono inseparabili, nel senso che il mistero deve sempre esprimersi in una formula. Ancora, l'esperienza di fede della comunità cristiana, vista diacronicamente e sincronicamente, è sempre incarnata in una cultura. Si concretizza in una pluralità di oggettivazioni materiali e istituzionali, in un complesso di stereotipi, costumi, comportamenti etici che nel loro complesso costituiscono la prassi cristiana. A fondamento di queste oggettivazioni, di questa prassi, sta una visione del mondo e una teoria dei valori che ultimamente, a mio giudizio, sono sempre una ideologia, perché sono ultimamente il risultato dell'impatto dell'esperienza di fede comunitaria con la cultura preesistente nella quale questa esperienza di fede si incarna, e quindi sono sempre mutabili. Ancora, questa esperienza di fede della comunità attuale è intesa dal credente come lo sviluppo sostanzialmente legittimo di quell'evento parola primordiale decisivo che è la rivelazione, espresso nelle forme linguistiche dalla Bibbia, dalle confessioni di fede, ed espresso invece sotto forma di istituzioni e in altro modo dalla vita della comunità ecclesiale nel suo divenire storico. Però questo sviluppo sostanzialmente legittimo lo concepisco come sviluppo in parte omogeneo e sviluppo in un certo senso eterogeneo, per cui tra due diverse dottrine ci può esistere un rapporto di contrarietà senza essere contraddittorio. Ecco, poste queste affermazioni, aggiungo ancora che la necessità della teologia la vedo fondata su questi punti. Le differenti formulazioni dell'unica fede esistenti già a livello biblico, il continuo progresso della cultura coi nuovi problemi che pone alle comunità cristiane e ai credenti singoli, la diversità delle culture entro le quali si attua l'esperienza di fede e si è attuata diacronicamente e si attua sincronicamente, l'inesauribilità della parola o mistero contenuta nelle formulazioni bibliche o nei testi della tradizione e nella vita della Chiesa, postulano una sempre rinnovata interpretazione critica di questa esperienza di fede della comunità cristiana. Esperienza di fede che ha come oggetto realtà e attività sacrali e religiose, Dio, Cristo, la Chiesa, la preghiera, i sacramenti, e realtà e attività profane, familiari, economiche, sociopolitiche, educative e culturali. Questa interpretazione critica nel suo momento scientifico è quello che noi chiamiamo teologia, la quale perciò non può essere un tipo di sapere valido una volta per sempre, ma è sottomessa alla storicità, non esiste una teologia perennis, ed è soggetta al pluralismo, pluralità di sistemi teologici. Questa teologia, che appare allora come un immenso sforzo ermeneutico dell'esperienza di fede della comunità cristiani, ha conosciuto regimi differenti, prima nasce nell'ambito della predicazione, si sviluppa autonomamente come scienza nell'università medievale, ritorna in questi ultimi tempi all'interno di nuovo della prassi pastorale, ha subito molteplici divisioni, quelle che tutti conosciamo, e si è cristallizzata di fatto in opposti sistemi, pur nell'ambito dell'unica fede. Ora, supposto questo modo di vedere le cose, io tento di indicare in 5 condizioni gli elementi o i criteri per un dialogo interdisciplinare tra teologia e psicologia. I criteri sarebbero questi. Primo, necessità di omologia tra le due scienze. Secondo, le due scienze devono incontrarsi direttamente su un terreno comune, cioè ci deve essere una realtà che sia oggetto comune di ricerca delle due scienze. Terzo, psicologi e teologi devono riconoscere che le loro scienze sono spiegazioni parziali di questa realtà. Quarto, ciascuno, psicologo e teologo, devono essere in grado di comprendere l'uno il linguaggio dell'altro, il famoso bilinguismo. E ultimo, devono avere ciascuno volontà politica di collaborazione. Io svilupperò soprattutto le prime. Anzitutto, la cosa più importante, a mio giudizio, è che la teologia oggi può essere concepita come scienza omologa alle scienze psicologiche. Per quanto riguarda la psicologia, dico soltanto questo. Siamo passati dalla psicologia come scienza unica di tipo antropologico a una pluralità di scienze psicologiche che si differenziano dal punto di vista dell'oggetto, del metodo di ricerca, della loro maggiore o minore orientazione, del loro maggiore o minore orientamento alla prassi. I processi psichici, i comportamenti, benché per la c'è una teoria comportamentale che va fuori della psicologia, è diventata una sezione a parte, tutta l'etologia. Comunque, i processi psichici, oggetto comune di tutte le scienze psicologiche, vengono studiati o nelle loro strutture e condizionamenti, pensate psicologia generale, dinamica, eccetera, o nel loro sviluppo, tutta la parte della psicologia genetica, secondo le varietà, o come procedimenti come sviluppo normale oppure patologico, tutta la psicopatologia. Inoltre, questi stessi processi sono studiati in rapporto all'inserimento del soggetto nei differenti plessi sociali e contesti culturali, pensate psicologia familiare, sociale, dinamica di gruppo, eccetera. Questo studio psicologico può avere un orientamento prevalentemente ermeneutico-critico oppure pratico-progettuale. A quest'ultimo orientamento appartengono tutte le psicoterapie: analisi freudiana, analisi junghiana, modificazione comportamentale, analisi transazionale, teoria gestaltistica, bioenergetica, terapia primaria, terapia relazionale, terapia della realtà, ipnosi, gruppi rogersiani, terapia relazionale che va molto in Italia, gruppo Cancrini, Selvini, Mare, eccetera. Ora, questa, diciamo, tutto questo complesso di scienze psicologiche hanno prodotto, nelle loro differenti ramificazioni, teorie, cioè sintesi più o meno sistematiche, le quali, come tutte le altre teorie scientifiche, se si accetta la concezione popperiana, sono falsificabili e hanno tutte dei presupposti di base accettati come postulati o ipotesi di fondo. Ora, la mia affermazione è questa: la teologia può essere considerata come una scienza omologa a queste scienze, quindi può in qualche modo entrare in dialogo e avere un terreno comune su cui discutere. Accenno soltanto brevemente. Dopo la svolta antropologica, molti teologi, io tra questi, concepiscono la teologia come scienza ermeneutico-critica e pratico-progettuale dell'esperienza di fede della comunità cristiana, quale emerge nella specificità dei linguaggi ecclesiali, radicalmente autoimplicativi, simbolici e arcaici, coi quali la comunità cristiana esprime la culturazione della sua fede. Le si attribuiscono due funzioni che si attuano in due momenti inscindibilmente connessi nel circolo ermeneutico: l'interpretazione scientificamente corretta del passato, dei testi, in funzione di una reinterpretazione critica del presente, dell'uomo, dell'esperienza, la quale non può restare puramente teoretica, ma, per una serie di motivi che non elenco, deve diventare pratico-progettuale, proprio deve cioè possiede necessariamente un orientamento alla prassi. In altre parole, l'orientamento non è soltanto all'ortodossia, ma all'ortoprassi. L'interpretazione del passato, per essere scientificamente corretta, impone un lavoro linguistico-ermeneutico a tre livelli, da intendersi non tanto come tappe successive, quanto piuttosto come angolazioni diverse ma necessarie dell'unica ricerca teologica. Il famoso livello filologico oggettivo, il livello fenomenologico storico e ontologico teologico, cosa ha voluto dire veramente Dio. Però, ecco qui entra in gioco il primo elemento della psicologia. Quando il teologo fa questo lavoro, non opera in uno spazio asettico, culturalmente e psicologicamente neutro. E qui trovo il fondamento ultimo dell'inserimento della sociologia e di tutte le scienze sociali nell'ambito del metodo teologico e della psicologia, ma con una serie di precomprensioni determinate in lui, sia dalla sua situazione psichica, sia dalle oggettivazioni culturali, dalla prassi, dalla visione del mondo, eccetera, prodotti in lui dall'impatto della fede della comunità cristiana a cui appartiene con la cultura in cui si trova, di cui la comunità cristiana costituisce una subcultura. Questa situazione e le precomprensioni che produce influiscono sul teologo sia nel suo sforzo di comprensione critica del passato, sia nel suo sforzo di reinterpretazione critica del presente. Io credo che qui sta il senso del lavoro teologico. Il lavoro teologico, perché riguarda il passato, è sempre necessariamente in funzione della reinterpretazione critica della fede presente della comunità, per rispondere ai problemi che l'oggi pone. Ora, se lui è condizionato da questa situazione psichica e culturale, io non posso conoscere questo se non scientificamente, se non utilizzando dei metodi scientifici che mi offrono o la psicologia o le varie teorie, quindi le teorie psicologiche e le teorie sociologiche. Cioè, se noi accettiamo che il circolo ermeneutico è concepito in questo modo, il teologo parte da una determinata precomprensione della parola di Dio che assume dalla comunità cristiana in cui vive, determinata precomprensione che è causata da questa situazione psicologica e culturale. Si propone di raggiungerne una nuova, che risponda ai problemi nuovi che la cultura in cui è immerso gli pone. A questo scopo interroga i documenti linguistici del passato, ma la nuova interpretazione che raggiunge sarà contemporaneamente interpretazione scientifica di quei testi e reinterpretazione critica dell'esperienza di fede sua. I due momenti si saldano profondamente insieme. E questo in fondo è il processo di ogni scienza. Quindi la teologia in questo modo è secondo lo schema popperiano, è un'attesa delusa. L'ambiente mi offre delle soluzioni. Nascono dei problemi, il problema suscita la ricerca, tenta una soluzione che tenta di risolvere questa ricerca interpretando il passato, cioè di risolvere questo problema interpretando il passato, e arriva ad una soluzione che naturalmente non è definitiva, sarà falsificabile. Non solo, ma questa reinterpretazione critica del presente non può restare puramente teoretica, deve diventare necessariamente pratico-progettuale. Infatti, l'esperienza di fede della comunità cristiana oggetto dell'ermeneutica teologica non ha soltanto contenuti teoretici, ma anche pratici, non soltanto contenuti religiosi, ma anche profani. La comunità cristiana che vive nel mondo deve affrontare e risolvere continuamente, a livello teorico e pratico, quei problemi che la cultura continuamente le pone. Ha coscienza di doversi confrontare continuamente con teorie e prassi politiche, economiche, pedagogiche, mediche, con teorie filosofiche, psicologiche, sociologiche. Non può ignorarle. Deve o accettarle, o rifiutarle, o trasformarle, o inventarne delle nuove. Nascono così le teorie e le prassi, economiche, politiche, pedagogiche, eccetera, cristiane, cioè nascono quelle prassi e quelle teorie che sono il risultato dell'acculturazione della fede. E le teorie sono delle ideologie, non nel senso negativo del termine, ma nel senso che sono delle rappresentazioni provvisorie che tentano di interpretare l'impatto provocato dall'acculturazione della fede. Ora, queste ideologie peccheranno sempre di concordismo. Noi abbiamo criticato fortemente il concordismo, ma ci siamo domandati il motivo per cui criticavamo il concordismo. Quando all'inizio di questo secolo l'interpretazione dei sei giorni della creazione veniva fatta attraverso le epoche geologiche, noi guardiamo dall'alto questa interpretazione, ma ci dobbiamo domandare: dove sta l'errore? Sta nel ricorso alle scienze geologiche oppure nell'essersi dimenticati che prima di fare l'indagine bisognava stabilire che cosa aveva detto veramente Dio? Cioè, non, i tre livelli si erano dimenticati, si era presa la frase così come era, come se fosse parola di Dio, e allora si ricorre alle scienze geologiche per spiegarla. Cioè, ogni tentativo, tutto quello che noi facciamo è tutto concordismo. Non può non essere questo. Necessariamente noi inventeremo delle teologie che saranno sempre delle specie di sintesi non ricavate direttamente dalla Bibbia o dal Magistero, come una volta c'erano le famose politiche teologiche, le pedagogie teologiche, ma attraverso un certo dialogo con le scienze, e qui verrà fuori l'altro problema, ma è un dialogo in cui noi raggiungiamo dei risultati che non sono mai definitivi, sono sempre estremamente falsificabili. Questa teologia, così come l'ho descritta, non si identifica con la fede del teologo o della comunità, pur presupponendola come postulato di base, ma è concepita come una riflessione critica al di dentro di un'opzione di fede, con funzione critico-ermeneutica dei contenuti e pratico-progettuali. La sua riuscita concluderà una certa teoria più o meno sistematica, che noi chiamiamo scientifica, mai definitiva, storicità, mai esaustiva, inesauribilità del dato rivelato, molteplicità dei sistemi teologici, quindi sempre di diritto falsificabile, sostituibile con un'altra teoria sistematica dello stesso genere. Dunque, è possibile che psicologia e teologia si mettano insieme non più nel rapporto io sono la scienza domina, tu sei la scienza ancilla e io ti adopero, ma anche studiamo insieme qualche cosa che né io né tu riusciamo a capire pienamente. Tu devi accettare che io ho diritto di esistere come io accetto che tu hai diritto di esistere. Formuleremo delle sintesi che sono modificabili ulteriormente. L'indisponibile, come diceva giustamente Schillebeck, l'indisponibile è la fede, non la teologia. Vado avanti, se no. Allora, evidentemente, se è vero questo, è possibile attuare un dialogo su un oggetto comune. Qui però voglio fare un rilievo. Schilling, nel suo volume Grundlagen der Religionspädagogik, che è stato tradotto in italiano col titolo Teologia e Scienze dell'Educazione, ritiene possibile il dialogo, però su due oggetti formali diversi. La teologia può entrare in dialogo con la psicologia dell'educazione, con la pedagogia, con tutte queste scienze, solo in questo senso, che l'antropologia, l'antropologo teologo, il teologo che studia antropologia, si occupa dell'uomo in quanto è soggetto del piano salvifico di Dio nel Cristo. Lo psicologo, il pedagogista, si occupa dell'uomo nell'orizzonte della sua riuscita umana. Quindi uno studia Homo Dei, l'altro studia Homo Educandus, o Homo in quanto a strutture psicologiche. Ora, a me non sembra che sia vero questo. Tutte e due studiano lo stesso oggetto, la totalità dell'oggetto, la distinzione, la differenza è sul piano del metodo, ma non sul piano dell'oggetto. Cioè, la distinzione tra le due scienze non è in base all'obiettum formale quod, ma in base all'obiettum formale quo, per usare la terminologia vecchia della scuola. Allora, supposto questo, le altre condizioni sono molto semplici. I due teologi devono rinunciare alla pretesa più o meno conscia che le loro scienze costituiscono l'unico approccio scientifico dell'oggetto in questione. Allora, questo è a livello ufficiale, tutti lo ammettono, però di fatto poi provate a discutere, vedete che è difficilissimo ammetterlo. Significa allora riconoscere che la realtà così complessa che un approccio indisciplinare è l'unico approccio possibile. Per attuare l'approccio indisciplinare è indispensabile che i due parlino l'uno il linguaggio scientifico dell'altro, cioè che pur non essendo uno psicologo, essendo teologo, sia in grado di capire il linguaggio scientifico nella sua peculiarità scientifica dell'altro e viceversa, altrimenti si realizza quello che diceva Popper dei quattro che giocano con lo stesso mazzo di carte, ma con due regole distinte. Uno gioca con la regola del 3-7, l'altro gioca con la regola della scopa e non si possono intendere evidentemente. E finalmente devono avere la volontà politica della collaborazione per la comprensione di uno stesso fenomeno. E vengo all'ultimo problema. Incidenza delle teorie psicologiche sul metodo teologico. Dunque, abbiamo detto precedentemente che i teologi di professione oggi non ritengono possibile interpretare teologicamente i contenuti profani e anche sacri dell'esperienza di fede cristiana, né progettare prassi corrispondenti senza entrare in dialogo con le scienze profane, in particolare con la psicologia. Ora, abbiamo visto, le condizioni devono essere scienze omologhe, eccetera, terreno comune. Ci chiediamo, qual è la motivazione profonda della necessità di questo dialogo? E come avviene questo dialogo? Cioè, in questo dialogo, il teologo può a un certo punto utilizzare il metodo proprio della psicologia al di dentro della teologia? Molari, in questo articolo, che ritengo abbastanza interessante, dice che la novità sta in questo, riferendosi per esempio a Galileo. Galileo ha indicato nella natura uno spazio di rivelazione la cui verità diventa norma di interpretazione della stessa scrittura, e dice che la storia viene indicata come spazio di rivelazione nel cui orizzonte acquistano significati le parole trasmesse, e così per le scienze sociologiche, e cita le letture politiche della Bibbia, e per le scienze psicologiche la psicologia dell'inconscio. Contiene dei messaggi e delle rivelazioni che aiutano il teologo a comprendere più adeguatamente la parola di Dio. Ora, queste affermazioni di Molari hanno una motivazione. Qual è la motivazione? Io ritengo che sia questa. Noi, dunque, affermiamo che la parola di Dio esiste solo allo stato di acculturazione, e così pure l'esperienza della comunità. Però supera infinitamente i limiti di questa cultura in cui è inserita. La conseguenza che normalmente viene ricavata è questa. Dunque, se io voglio conoscere la parola di Dio, devo entrare nella cultura in cui questa parola fu pronunciata o trasmessa, e entrando in questa riesco a scoprire. Questo è veramente necessario, ed è la prima cosa da farsi. Però, se la parola di Dio è stata detta allora, ma con valore anche per l'oggi, il fatto della sua acculturazione esige che io, per poterla capire nell'oggi, ricorra alle scienze dell'oggi, a quello che è la cultura dell'oggi. Altrimenti non riuscirò mai a capire questa parola nell'oggi. Perché? Perché queste scienze, nel caso la psicologia, scoprendo nuove dimensioni nella realtà umana, e modificando la prospettiva con cui l'uomo vede se stesso e il mondo, mi forniscono nuovi strumenti per una comprensione più profonda di quello che Dio voleva dire e che nel passato significava solo questo perché lo strumento per interpretarlo era limitato. Oggi può significare un'altra cosa perché lo strumento si è allargato e domani significherà ancora un'altra cosa per l'allargamento dello strumento. Questo con una immagine spaziale, quello che io penso. E questo giustificherebbe allora l'uso di queste scienze al di dentro del metodo teologico. So però che questo provoca dei problemi, nel senso che, ecco, veniamo al caso concreto, Poiè, per esempio, ritiene che questo non può avvenire se non mediante la mediazione della filosofia. Cioè, la strumentazione, la sua frase è più o meno questa: la filosofia avrebbe il compito di elaborare un discorso razionale sull'esperienza che l'uomo effettua della propria condizione e di formulare teorie generali, evidentemente falsificabili, che includano i risultati delle scienze psicologiche in modo tale che io utilizzo già questi risultati attraverso una evoluzione. Difatti, nell'utilizzazione della teoria piagetiana interviene continuamente una mediazione filosofica. Un po' meno nell'utilizzazione della teoria, diciamo, psicanalitica, per nulla qui dentro, però con esiti diversi. Quanto al magistero, io questo ve lo pongo perché voi come teologi fondamentalisti dovete necessariamente porvi questo problema specifico, e non lo risolvo perché mi mancano gli elementi. Io penso ci vogliono anni di studio per poter arrivare a stabilire veramente la motivazione, cioè è indispensabile la psicologia, la filosofia, anche se non ammettiamo l'esistenza di una filosofia perennis. E concludo questa parte qui prima di accennare a due esempi, sempre più o meno le parole di Poiè. Siamo convinti che le scienze psicologiche, con i loro apporti alla comprensione dell'esperienza umana attraverso la mediazione della riflessione filosofica, permetteranno al teologo di articolare un discorso sistematico e razionale sui contenuti della parola di Dio e sui progetti di una prassi cristiana che implichi un progresso vero sul passato, scoprendo nuovi significati e nuove vie. Adesso, avevo preso tanti appunti per poter fare degli esempi, ma quando mi sono messo a redigere qualche esempio, visto che ci andava solo per spiegare un esempio ci voleva un'ora, no? E allora accenno soltanto, ecco, ci sarebbe per esempio un tentativo di spiegare lo sviluppo della fede infantile e fede adulta utilizzando la teoria di Piaget. In questo senso, noi parliamo, prendete un libro di Colomb poco prima che morisse, Le Devenir de la Foi, no? Pubblicato da Saint-Urion, non è stato tradotto in italiano, dove mette in luce lo sviluppo della fede nel soggetto sotto l'influsso della cultura. Però che cos'è veramente una fede infantile? Quando è che una fede la possiamo dire adulta? Possiamo trascurare, per esempio, in questo caso qui, questo immenso studio che ha durato una vita di Piaget per capire il divenire della fede e limitarci a dire delle impressioni, la fede adulta è quella dell'uomo cosciente di sé? Cosa vuol dire? Io che mi occupo di teologia dell'educazione, tutti i momenti mi incontro con queste frasi che sono bellissime perché vanno bene in una predica, ma che non dicono nulla dal punto di vista scientifico. Cioè, che cosa vuol dire? Allora, se fosse vero che i caratteri fondamentali del pensiero prelogico preformato. Adesso non vado a esporre la dottrina di Piaget, ma sono l'egocentrismo, quindi incapacità di decentramento, sincretismo, transduzione invece di induzione, la precausalità, cioè causalità psicomorale, fenomenismo, causalità magica, finalismo, artificialismo, animismo, dinamismo. Se è vero che molti aspetti del pensiero religioso e del pensiero della fede che riguardano Dio creatore, rapporto tra Dio e la creatura, la preghiera, eccetera, hanno delle caratteristiche analoghe al pensiero infantile, allora io ho degli strumenti per poter costruire qualche cosa del genere, cioè costruire una teoria dell'evoluzione della fede che sia seria, perché utilizza un processo che è falsificabile. Tutti sappiamo che Vygotsky ha criticato potentemente Piaget, ma tuttavia la teoria di Piaget resta una grossa teoria, come quelle di Freud, con cui si può fare il dialogo, si può fare. Questo sarebbe il primo esempio detto così. Secondo esempio, brevissimo, quello delle teorie freudiane. Omologia tra la fede cristiana in Dio Padre e la struttura edipica dell'uomo. Se il complesso di Edipo è una struttura fondamentale dell'organizzazione della vita psichica dell'uomo, che può avere sbocchi nevrotici e sbocchi non nevrotici, nel senso che la pratica della psicanalisi riposa sul fatto, possibile, augurabile, che il complesso di Edipo sbocchi in metamorfosi diverse da quelle che generano la nevrosi, allora ci si chiede se sia possibile una lettura psicanalitica della fede in Dio Padre che però non si limiti, come è avvenuto con Freud e con tutti i freudiani, alle considerazioni delle omologie che può avere questa dottrina con gli sbocchi nevrotici del complesso di Edipo, fino a interpretare la religione come la nevrosi collettiva, assieme alla cultura, eccetera, che però salva in qualche modo. Ora, il Poirier ha tentato invece dimostrare che esiste una fede in Dio Padre che può essere nevrotica, è una fede non nevrotica, che tra di loro non sono totalmente eterogenee, sì da considerare la fede non nevrotica come sottratta alle vicissitudini del complesso di Edipo, mentre la fede nevrotica sottomessa a questo, ma che tutte e due dipendono da uno sviluppo nevrotico o non nevrotico del complesso di Edipo. Posto questo, allora mostra come si possa arrivare nel complesso di Edipo: i rapporti tra padre e figlio sono inscritti in un sistema inestricabile di identità e incompatibilità. Sotto la spinta dell'onnipotenza del desiderio, il figlio tende a identificarsi col padre. Questo tipo di identificazione porta con sé contemporaneamente una specie di incompatibilità tra padre e figlio, o tu o io, nel possesso della madre, evidentemente. Nasce una dialettica di morte o di sottomissione, morte del padre da parte del figlio, quindi l'uccisione del padre, oppure, complesso di castrazione, del figlio da punire. Ora, questo sfocia evidentemente nella nevrosi, però c'è uno sfociamento non nevrotico, quando il figlio riesce ad arrivare a concepirsi come simile al padre, non identico, diverso e compatibile con lui. Ora, potrebbe esistere una concezione e un'attuazione della fede cristiana in Dio Padre profondamente omologhe alle vicissitudini nevrotiche del complesso di Edipo, e la analizza, come può esistere in un'altra rappresentazione non omologa al complesso di Edipo, cioè non omologa al complesso di Edipo, ma in quanto sfocia non nella nevrosi. E così, nel complesso di Edipo la madre gioca un ruolo particolare, nel senso che è oggetto del desiderio e contemporaneamente è oggetto vietato per la presenza del padre. Di qui gioca identità e esclusione di nuovo. Desiderio e piaceri sono monopolizzati e impossibili. C'è un modo di vivere il cristianesimo analogo a questa situazione, e c'è un modo che lo supera. Ora, evidentemente, io mi fermo qui e non l'ho ne manco letto tutto questa cosa qui, È difficile entrare in questo contesto, vi dico sinceramente, io mi è venuto il desiderio di leggermi Freud, no? Ma evidentemente sarà una cosa del futuro questa. Comunque, è indispensabile arrivare a chiarire questo problema, perché l'esito del congé de Dieu, cioè l'esito della condanna, a parte gli elementi negativi che ci possono essere anche nella condanna, ma effettivamente ci sono delle affermazioni che nessuno si sente di sottoscrivere così come suonano, sia sulla resurrezione sia su altri punti. C'è una enorme difficoltà di comprendere questo. Gli strumenti assunti da lui sono veramente validi? Cioè, quando lui concepisse Dio come la Shekinah, Dio è uno spazio aperto sulle ali dei cherubini, va bene. È un concetto trascendentale, tale che può includere tutti gli sviluppi del dogma cristiano, oppure è tale che mi rischia poi di falsificare alcuni punti del dogma cristiano? Chiudo. Allora, la mia conclusione, ripeto, è problematica. È compito del teologo studiare le condizioni per l'instaurazione di un dialogo interdisciplinare tra psicologia e teologia in funzione della spiegazione di realtà che il teologo deve spiegare per la vita della comunità, la cui complessità esige un approccio interdisciplinare. Quindi si esigono le due scienze. Da approfondire. In che senso la teologia è scienza omologa alle altre, in caso con la psicologia? In che senso teologia e psicologia possono avere un oggetto comune, cioè la stessissima realtà? Secondo problema. È compito del teologo definire l'incidenza delle teorie psicologiche sul metodo teologico. Ma per quale motivo? A quali condizioni? Cioè, il motivo dell'acculturazione della parola di Dio e la sua trascendenza rispetto alla cultura è sufficiente per imporre l'uso degli strumenti culturali nuovi per scoprire il significato di questa parola nel presente? Secondo, il fatto che le teorie psicologiche scoprono nuove dimensioni della realtà e modificano la prospettiva con cui l'uomo vede sé e il mondo, aiutano veramente ad intuire ciò che Dio vuol dire per l'oggi, pur espresso in una formula condizionata da una cultura del passato? Queste sono le mie conclusioni. Adesso facciamo un dibattito il più possibile breve, perché eventualmente alcuni problemi che metodologici che sono, direi, ordinati a tutta la discussione della teologia fondamentale. Ho avuto l'impressione che Don Groppo praticamente abbia fatto un discorso così metodologico radicale che può valere per tutta l'area delle scienze, della filosofia, che devono essere convocate, ascoltate per realizzare il discorso teologico. Quindi quelle obiezioni, quelle domande che si riferiscono a questi aspetti di fondo epistemologici, le rimandiamo al dibattito finale. Difficilmente però. Sì, ma comunque cerchiamo, se possibile, di individuare più quelle domande, quelle provocazioni che si riferiscono alla psicologia. Valentini. Mentre si preparano i primi interventi, consentitemi di dire una parola di saluto anche a nome vostro al professor Paolo Prodi, che è appunto arrivato durante questa riunione. Uno dei Prodi. Che è il segretario direttore dell'Italo-Germanico e ha portato il seme efficace della nascita anche del nostro istituto. Proviene dall'Istituto di Scienze Religiose di Bologna e credo potrà essere... ministro che non è riuscito a diventare ministro. Adesso poi non diamo la parola ai teologi in queste cose perché diventano pericolosi. No, ecco. Con l'occasione, vi ricordo, è stata passata una carta dove vi prego di mettere nome, cognome, indirizzo, qualifica. Però vi pregherei di farla girare, che arrivi in buon porto così senza sacrificare tempo a nessuno. Grazie. Stamattina il dottor Minestrina mi diceva se qualcuno volesse ricevere, se riuscite poi a fotocopiare, ciclostilare la relazione di Kern, padre Kern, può lasciare l'indirizzo. Padre Kern, quello di ieri. Ma tutte le relazioni. No, ma le relazioni verranno fuori, non stampate negli atti. Ma non so se sia il caso di... Se qualcuno la volesse presto, me lo lasci il nome e l'indirizzo. Due sono pronte, ciclostilabili anche subito, quella del padre Kern e quella del padre Laturel. Padre Laturel. Siccome pensiamo di stampare però il tutto in un volume, anche per limitare ecco, le dispense al necessario, io direi che chi sente necessità immediata di avere una o l'altra di queste due dispense o tutte e due, faccia un bigliettino e lo consegna al segretario. Vero? Gli altri possono anche pazientare, per, no? Ma può esserci qualcuno che proprio per suo uso personale ha desiderio urgente di avere questo, cercheremo di accontentarlo mettendo indirizzo, si capisce. No? Allora cominciamo il dibattito, Ruggeri, no, prima c'era Valentini. Io suppongo che le conclusioni che sono problematiche per me permettano lo stesso intervento, e questo intervento non esclude che abbia recepito con tanto piacere quello che su cui non chiedo un'informazione di approfondimento. E mi riferisco alla terza parte sul carattere di omologia della filologia e della psicologia. L'intervento riguarda quattro piccoli punti. Primo, ho l'impressione che la presentazione della teologia sia piuttosto a livello descrittivo, a livello fenomenologico, con una certa tendenza positivistica. Mi pare che sia stato sottaciuto che il principio soggettivo della teologia sia anche la fede. La qualcosa cambierebbe un po', potrebbe cambiare un pochettino nelle conseguenze. Un'altra osservazione sul concordismo. Certamente è stato accennato anche a una possibilità di sviluppo, però mi pare che il concordismo, così come può essere stato interpretato, potrebbe dare adito a una esclusione dello sviluppo del dogma stesso, se radicalizzato, almeno nel senso che ho capito io. Una terza osservazione, il termine falsificabile credo che possa avere un significato anche valido, tuttavia mi fa un po' difficoltà così come è stato usato, nel senso di approfondimento, di completamento, siamo d'accordo, c'è un senso giusto che non mi fa difficoltà, però così mi fa un po' difficoltà, mi sembrerebbe che riconduca la teologia a qualcosa di estrinseco, a qualcosa di che non ha niente a che fare con un nucleo, che sarebbe come un vestito che io indosso la mattina, la sera la sdosso così quando mi piace, eccetera, e resta tutto intatto questo nucleo che è, chiamiamolo la fides quod, vero? La fides quae, che mi pare che dove resterebbe questa fides quae? Per aria come la cesta di cioè mi pare che sia una certa forma di esteticismo. Un ultimo punto, dice che non c'è distinzione, si dice, tra la teologia e la psicologia a livello dell'objectum quota, ecco, pensavo a questo punto quota. Ora, è solamente a livello di objectum quo, detto formale, poi c'è. Anche qui mi fa difficoltà perché mi sembrerebbe sottaciuta così in questo discorso la fides quae. Tu stesso hai parlato di quel mistero che sarebbe il punto di riferimento ultimo. Mi sembrerebbe che questo elemento non abbia la dovuta dottoregie. Ruggeri? Ma anch'io mi muoverei sulla scia delle domande di Valentino. Don Donato è sempre il mio astro. Cioè, a parte lo scherzo. E proprio la mia riflessione sorge da un esempio che ha portato Don Groppo, che peraltro ringrazio per la relazione ricchissima, veramente. E cioè, quando lui, citando Molare, diceva che Galileo ha detto per primo che la natura introduce anche un campo di rivelazione, per così laddove Dio si rivela. A me immediatamente veniva di pensare che la citazione, non la citazione sbagliata, ma che quello che dice Molari è totalmente falso, perché perlomeno nella storia della teologia esattamente questo tipo di ragionamento si è proposto nel contesto dell'uso della dialettica in teologia, cioè in Medioevo. Già Abelardo difendeva l'uso della dialettica con il ragionamento che, essendo il logos, va bene, all'origine della mente umana, allora non vale soltanto l'autorità della sacra pagina, ma vale anche l'autorità della logica. È sostanzialmente la stessa struttura. Cioè, è un problema di sempre della teologia. Ed è un problema che la teologia, soprattutto, ha dovuto affrontare in Occidente, quando ha operato questo impatto, credo nuovo, già prima con la dialettica e poi nel XIII secolo. E il riferimento che hai fatto da un gruppo invece al XIII secolo mi sembra estremamente pertinente, cioè estremamente centrato. Allora io pongo il problema, ma non sta qui il vizio in tutto. Cioè, al fondo, qual è il vizio che a me appare? Che si continua a immaginare la teologia come un sapere totalizzante a cui corrisponde il maximum di scientificità. Questo sembra il presupposto indimostrato anche della tua relazione. Cioè, occorre che la teologia sia un vero sapere, che essa sia falsificabile come le altre scienze, che quindi usi, poi tutto sommato mi sembrava di vedere nel tuo modello il modello della Hilfswissenschaft, così almeno quello che mi sembrava di percepire, però che usi ciò che le scienze empiriche, psicologia e sociologia dicono su. A me questo metodo fa paura. Perché? Non perché non debba esistere la psicologia della religione, la psicologia della fede, la sociologia della religione, la sociologia della fede, ma perché mi sembrerebbe che in tal modo proprio si snaturi la vera ciò che la teologia è stata tradizionalmente, che è stato il sapere della fede adorata. E dove le regole di falsificazione che la fede ha saputo dare, vere regole di falsificazione, nella prassi della comunità, pensiamo alla prassi della scomunica, che è una regola di falsificazione, per esempio, una prassi antica, quanto la patristica, non sono mai derivate da un sapere, nel senso oggettivo del termine, quando piuttosto proprio da una sensibilità, da un gusto dell'adorazione, anche distorto forse, e ben venga la psicologia a, come religions critique, a denunciare queste distorsioni, intendiamoci bene. Cioè, il senso ad esempio tradizionale di regula fidei, qual è? Non è tanto la regola sulla fede, ma il fidei è soggettivo, è la regola che la fede si dà. E la teologia è responsabilità rigorosa di questo sapere atipico della fede, che a mio avviso è sempre un sapere di tipo mistico, di tipo negativo. Ora ecco, io vorrei porti la domanda, ma al fondo, dietro tutta la tua istanza, non ci sta questo modello di teologia? La teologia è un sapere, e so che è vecchio il modello. Già per esempio, a mio avviso, forse io sbaglio, quando Tommaso commenta nella questione sulla potenza, le potenze, pare che sia la questione settima, articolo 5, commenta il problema utrum predicta nomina significant divinam substantiam, cioè se i suddetti nomi stanno a significare realmente la divina sostanza, e prende di petto tutta la teologia orientale, a mio avviso lui mistifica la teologia orientale. Perché quello che per la teologia orientale di origine in primo luogo era il problema della unione a Dio, di cui la teologia è strumento, per lui diventa invece problema della conoscenza oggettiva di Dio. E lì c'è, credo, un problema grossissimo, che poi si ripete anche, a mio avviso, in questo tipo di tematiche. Però non esiste questo presupposto. Ora, se io c'ho un modello che invece amo nel confronto con la psicologia, è proprio quello della religione scrittura. Invece che ben venga lo psicologo, che ben venga il sociologo a denunciare le mie distorsioni, a denunciare, come dire, i miei falsi giochetti. E io lo devo ascoltare, ma non per poi integrare il suo sapere nel mio. Non per poi costruire una scienza, non so, sui generis, eclettica, sintetica con la sua. Quanto piuttosto perché io purifichi il mio sapere, perché io purifichi, come dire, il mio modo di essere responsabile della fede cristiana. Ho finito. Forse è meglio che risponda, sì. Perché ho ricevuto due o tre siluri qua. Sì, sì, sì. Li ringrazio. Per quanto riguarda le cose dette da Valentini, io penso, veramente, no, per rispondere per esempio alla prima questione, la teologia è presentata descrittivamente in un modo che potrebbe sembrare quasi positivistico, il principale, il punto fondamentale è la fede. Ecco, questo problema viene a connettersi un pochino con la definizione della fede, natura della definizione della teologia, natura della teologia, sapere della fede adorante, no? Sì, io confesso questo, dietro la mia esposizione c'è una concezione della teologia come un sapere, però non totalizzante in un senso che esclude gli altri saperi, e non che richiede per sé un maximum di scientificità, ma è un sapere che ha un suo fondamento, la fede. Cioè io in questo, se per questo, per caso questo è Tommaso, io sono tomista. Cioè non accetto la possibilità di altri concetti di teologia, sono pluralista al massimo. Per esempio la teologia concepita come sapere della fede adorante mi va benissimo, però io concepisco un'altra cosa. Io ho la mia fede, la vivo questa fede, ma a un certo punto sento il bisogno di rendermi ragione. E allora, invece di andare a pregare in chiesa per avere delle luci, farò anche questo, mi metto a studiare. È un modo diverso questo, cioè un modo, però ritengo che nell'ambito dell'unica esperienza di fede, della unica nel senso che è comune della comunità cristiana, siano possibili questi modi diversi. Se volete chiamarli carismi, io li chiamo carismi, cioè lo Spirito di Dio dà agli uomini, a coloro che credono, la possibilità di entrare al di dentro della fede secondo modalità diverse. Ora, questa è una modalità. Allora, ammesso questo, ecco che io non entro più, non utilizzo tanto le scienze, quanto piuttosto mi metto in dialogo con loro, perché mi riconosco uno che può sbagliare come tutti loro. Però ho una mia strumentazione, ho come postulato di base la fede e ho però al di dentro. Io credo, ma non faccio mai intervenire la mia fede come motivazione. Tutte le mie motivazioni sono di ordine diverso. Evidentemente è un tipo di teologia che non tutti accettano questo. Però in un seminario in cui si discuteva a Würzburg il problema dei rapporti tra psicologia, cioè tra le varie scienze dell'educazione e la teologia, dopo aver esposto questa idea di teologia, ho visto non credenti che hanno detto: il tuo concetto di teologia mi sta tanto bene, andiamo d'accordo, su questo possiamo discutere, su quel concetto di teologia non, se lui pensa così, lui cammini per la sua strada, ma con te posso discutere. Perché tu ti metti sul mio piano. Ora, qui viene fuori il problema, ma allora è per un motivo di ordine apologetico? No, è per un motivo intrinseco al modo di vedere la teologia, che per caso diventa anche apologeticamente Il problema è che deve esserci anche la psicologia. Non è che io non voglio che non ci sia. No, lo capisco, la sua funzione è religios critique. Ma quindi io non sono contrario. Non sono contrario alla posizione. Ritengo soltanto che, ecco, come io concedo l'esistenza di un modo di pensare la teologia accompagnato da questa critica della religione fatta dalla psicologia e da altre scienze, così chiedo diritto di cittadinanza nella comunità cristiana a un modo di vedere la teologia di questo tipo. Questo sarebbe. E in questo senso, per esempio, la falsificabilità io la accetto proprio invece di perfettibilità, proprio perché ciò che viene cambiato è la totalità sistematica. Ogni teoria è qualche cosa di unitario in cui se cade un pezzo cade tutta, viene sostituita da un'altra. Che cade tutto vuol dire, non vuol dire che tutto diventa falso, ma che la sistemazione, l'impostazione generale non regge più, non spiega più quel nuovo fatto che è emerso. Bisogna farne un altro, per cui questo tipo crolla. Sulla questione della distinzione tra l'oggetto della teologia e della psicologia, certo che io non sostengo che tutta la teologia si occupa, o meglio, che la teologia si esaurisce in quell'oggetto che ha in comune con la psicologia, ce ne sono tanti altri, però se la teologia è interpretazione critica dell'esperienza di fede della comunità cristiana, questa esperienza di fede invade un po' tutta una serie di oggetti che sono in comuni con la scienza psicologica. In questo senso c'è comunanza di oggetti. E poi c'era il concordismo, ma il concordismo io l'ho citato marginalmente, lo vedrei solo in questo senso, che ogni tentativo che noi facciamo è sempre un tentativo, inteso alla teologia nel senso che ho detto, è sempre un tentativo in cui io trovo nell'ambito del sapere, della cultura che mi sta attorno, degli strumenti per capire meglio ciò che Dio ha detto. E allora lo utilizzo, sapendo che domani ne troveremo degli altri migliori e questo lo metterò da parte. Allora, se questo è concordismo, io lo accetto. Se non è, se è un'altra cosa, se è il concordismo del passato, no, in quel senso lì. Però so che giustamente Don Pino può restare insoddisfatto, perché evidentemente qui si scontrano su due posizioni diverse, modo di vedere, e non dico che la mia è migliore. Ecco, per esempio, anche per Molari, no, io non sottoscriverei totalmente, l'ho citato quella di Molari, ma non per sottoscriverla totalmente, ma per indicare che era un tentativo di mettere in luce questa utilizzazione. Ma il ragionamento è vero, cioè il problema è che esiste una rivelazione di Dio attraverso la natura. Sì, sì. Non è che non esista, il problema è se la teologia abbia questo compito, è diverso. Sì, capisco. Non è che è falso l'affermazione. Cioè lui sostiene, mi sembra, che nel Medioevo questo era facile e facilmente concepibile, perché c'era una struttura anche politica unitaria della Chiesa, per cui l'unità gerarchica della Chiesa faceva sì che la Chiesa si poneva non soltanto come portatrice dei suoi valori, ma anche come tutela e addirittura portatrice degli altri valori in un sistema grande. Ora, lui dice, la continuazione di questo sistema, magari la Chiesa ha perduto questa struttura, ma la teologia vorrebbe conservarla, cioè trova i modi di assumere psicologia, sociologia, altre scienze, di rifonderle per farle passare ancora come elemento integrante del proprio discorso. Un esempio molto banale, che quindi evidentemente è molto banale. Noi di fronte alle religioni riconosciamo che sono vie della salvezza, ma di fronte alle scienze abbiamo bisogno di farle diventare teologia per riconoscere il loro valore cristiano. Se vuoi è molto banale l'esempio, no? Ora, io credo che esista un valore cristiano e anche un utilizzo nella comunità delle scienze e via dicendo. Non capisco perché il modello scientifico debba diventare modello del sapere teologico. Quando poi ho detto che la teologia è il sapere della fede durante, non vorrei negare che sia un sapere, ma bisogna stabilire lo statuto di questo sapere e la peculiarità di questo sapere. Se esista un sapere che non può essere spiegato senza la fede, che è relativo alla fede. Questo è evidentemente, occorrerebbe essere che fosse approfondito. Valentini voleva dire ribattere. Prendo della risposta, prendo solamente un punto, che rappresenta questa domanda. L'atto teologico, non il sistema, l'atto teologico, alla sua origine, c'ha un principio soggettivo che si chiama fede, chiamiamolo come fede, virtù della fede, eccetera, eccetera, che mi rende questo atto, con quanto ne segue, tale che, per cui non si possa avere una scienza nel senso delle altre scienze, ma solamente analoga, è di un'analogia che bisogna assolutamente mettere in evidenza, senza noi andiamo a battere così gran cassa per entrare nel tempio delle scienze, che poi anche fra loro le scienze sono tutte analoghe in un certo senso, o almeno sono tantissime categorie di scienze. Cioè l'atto teologico, non cade un sistema, allora cade tutto, anche lì, ma l'atto teologico in quanto tale non deve presupporre qualcosa, non deve esigere qualcosa, non esiste qualcosa che fa distinguere ciò che segue dagli altri. Io lo accetto, anzi non può esistere una teologia che non abbia come punto fondamento, come presupposto di base la fede, se no non è teologia, è tutto quello che si vuole. La discussione che è nata nel campo della pedagogia della religione per il problema dell'insegnamento della religione nella scuola, come si chiama, adesso mi sfugge il nome, quello che... Italiano? No, un tedesco. Alfas, con Alfas, precisamente, con Alfas, era proprio questo. Se la teologia è concepibile senza la fede. Ora, Alfas aveva accettato una teoria di questo genere. Questa non è più teologia. Questo, chiamatela tutto quello che volete. La teologia si fonda sulla fede. Non solo si fonda, ma la fede è il punto di partenza, è il presupposto base. Però la teologia comincia quando questo presupposto base, che è analogo al presupposto di tutte le altre scienze, comincia quando tu operi su questo presupposto, non necessariamente nel senso della deduzione, quindi secondo lo schema di una teologia deduttivistica in cui diventava la scienza delle conclusioni, ma in un senso diverso. Cioè io non mi propongo di voler salvare la teologia di fronte agli altri, perché se no questi scienziati non l'accettano. No, ma io mi domando, io sto riflettendo sulla fede. Ora, come posso capire questa mia riflessione? E trovo nella epistemologia popperiana o in questi sviluppi degli strumenti per capire quello che faccio. Li adopero. Perché non lo devo fare? Posto che tu lo devi applicare con ciò stesso allo statuto critico della teologia stessa. No, se devo abdicare, no, ma se non devo abdicare, io lo faccio. La domanda di Nompino sarebbe: perché devo farlo io questo lavoro e non sottomettermi io alle scienze degli altri? Ma per capirmi, ma secondo, quando lo faccio io, e io a volte ho utilizzato Popper, no? Quando lo faccio io non uso Popper. Estrapolo una concettualità e la integro dentro un sistema di sapere che corrisponde assolutamente a un'altra logica. Ecco, è vero questo, è vero. È inutile, il sapere, anche se non è teatralizzante, è sempre unitario e coerente. E quindi evidentemente la concettualità o la categorialità psicologica che io estrapolo, e guai se qualcuno pensa che io faccio psicologia in quel momento, sì. Ormai non corrisponde più allo statuto di partenza. Per questo io distingo due cose. E già il padre Cinu parlava di pragmatismo, del teologo. Ma dico, io distingo due cose. Distingo un teologo e uno psicologo che insieme vogliono studiare una realtà determinata, per esempio il passaggio da una fede infantile a una fede adulta, un teologo e uno psicologo studiano insieme questo, e va benissimo, ciascuno opera con la sua strumentazione, e in questo caso qui è perché riconoscono che da soli non riescono a esaurire la totalità di quella realtà. Ma è diversa la situazione in cui io a un certo punto mi accorgo che gli strumenti che ho tra mano per capire questo contenuto della mia fede o della fede della comunità non mi bastano più e ne adopero altri. Appena li adopero e li inserisco nel metodo teologico, li estrapolo dalla, e non faccio più psicologia, faccio teologia, però ho utilizzato qualche cosa di nuovo. Quando Tommaso d'Aquino ha utilizzato la concezione metafisica e psicologica di Aristotele, quella non è più la filosofia di Aristotele, è teologia tomista. In questo senso le do pienamente ragione. Non esiste più il problema della, pardon, non esiste più il problema della psicologia. No, esiste il fatto che io, in questo caso qui, la mia domanda, posso utilizzare dei metodi, delle tecniche, delle teorie psicologiche per introdurle nel contesto del metodo teologico per poter chiarire ulteriormente questa esperienza di fede della comunità? Io rispondo sì. Questo è il discorso che fa lui. Sì, ma lo psicologo lo fa. Perdono, c'è una frase di Raoul Ardente nel Medioevo che è di una, sembra strana, antichissima, ma di una lapidarietà enorme. Lui dice: al fondo Dio non ci ha regalato i nomi, quindi occorre che il teologo assuma questi nomi, ma assumendoli si ha una transunzio. E quindi lui dice, quindi ognuno attentamente perquirat transunzionis ratione, cioè il modo, la ragione con cui sono stati transignificati, assunti e trasformati all'interno dell'universo cristiano. Io credo che il problema è qui, non è soltanto con la psicologia, sempre il teologo opera questo, il linguaggio comune, il linguaggio parlato, il linguaggio poetico, quindi è un problema di metodologia teologica generale. Dove non mi fa problema allora a questo punto estrapolare veramente e infedelmente, molte volte infedelmente, pienamente d'accordo, concetti, categorie, per utilizzarli all'interno del mio universo di sapere e di pensiero. Il problema è che questo non è più un uso della psicologia, che la vera è lo statuto della psicologia invece deve infierire, direi io, crudelmente sulla teologia, ma il suo statuto, che lo psicologo in quanto tale deve totalmente usare, e anche questo è nella situazione di complementarietà dentro cui ci troviamo, un servizio utile da riconoscere. Sì, io ammetto questo, che lo psicologo può fare questo, anzi lo deve fare, sono contento che lo faccia, ma perché io a un certo punto non posso anche fare quell'altro lavoro? Lo posso fare l'altro lavoro, e io chiamavo questo l'utilizzazione della psicologia al di dentro del metodo teologico, che è un caso comune Se facciamo adesso psicanalizzare un po' tutti, per un 20 minuti ci diamo un po' di riposo, in modo da poter trovarci qui a una tavola rotonda puntuale, i quattro relatori siano presenti su questo tavolo fra 25 minuti, non poteva essere così. Però abbiamo il sistematico che discute dei rapporti teologia e scienze. Allora, in questa tavola rotonda invochiamo la luce dello Spirito Santo e della fede, ma anche della razza umana, per vedere se riusciamo a cogliere qualche conclusione. E richiamiamo qui sul tavolo i nostri almeno tre amici. Io penso che si potrebbero concentrare i discorsi intorno a questa domanda, ma insomma, che cos'è questa teologia fondamentale? Che pone i fondamenti, quali sono questi fondamenti? Abbiamo sentito padre Latourelle che continua a indicare, alcuni saranno elementi essenziali, primari, altri saranno secondari, ma almeno quali sono quelli fondamentali, anche a livello di contenuti di questa teologia fondamentale? c'è una finalità specifica, stamattina diceva, è la credibilità, ma in che senso? O la significatività del messaggio cristiano globalmente preso per l'oggi? Comunque una domanda potrebbe essere anche quella ancora più concreta. I 3-4 discorsi che abbiamo fatto oggi e ieri sera, dove li collochiamo? Hanno diritto di essere affrontati in qualche parte della teologia? Tocca o no la teologia fondamentale a discutere di questi problemi, il rapporto tra teologia e filosofia, il rapporto tra teologia, psicologia e scienze? Ecco, direi che su questo primo punto è nucleare un po' il nostro dibattito. Il che cosa sia e debba essere la teologia fondamentale, tenuto conto anche del passato, che cioè ci ha mostrato in un certo senso che alcuni discorsi non si possono eludere. Ecco, la base anche antropologica del discorso religioso, la base storica, soprattutto il concetto di rivelazione e di fede sono radicali oggi. E poi Don Ardusso ci ha inserito anche il discorso della mediazione della rivelazione. Ma questo era un discorso abbastanza classico. Adesso sono saltate fuori queste nuove impostazioni. Che cos'è questa teologia fondamentale? Quali sono i suoi contenuti? E soprattutto la sua prospettiva è sfuggita da una concentrazione sul nucleo essenziale oppure è qualche cosa che veramente ha recuperato alcuni aspetti altrettanto necessari? È solo la credibilità in senso apologetico o è qualche altra cosa? Ecco il primo punto. E eventualmente una seconda domanda potrebbe essere questa, io la formulo per tutti e tre i nostri amici se vogliono rispondere subito loro. È la recezio, cioè il teologo di fronte a queste nuove visioni, nuove prospettive, in che atteggiamento deve porsi? Abbiamo tutti sentito che in qualche maniera deve recepire, ma criticamente. Cosa vuol dire? Solo a livello, come si diceva prima, di farsi giudicare per farsi purificare, dato che spesso il nostro modo di parlare è ingenuo, mitico e spesso anche egemonico, residui come siamo di un'epoca in cui la teologia voleva far tutto, o al di là di soltanto di farsi giudicare, purificare, magari ridurre quantitativamente nello spazio, ma intensificare la formalità teologica. Oltre a questo, anche eventualmente quello di diventare capaci di capire, almeno capire, le altre prospettive per poter intavolare un dialogo su quali modelli. Lui ne ha elencato 4, quindi casomai puntiamo i nostri dibattiti anche sui 4 modelli possibili di incontro. La teologia deve addirittura andare più in là, oltre che soltanto farsi giudicare, verificare, purificare, oltre che diventare capace di capire gli altri mondi per aggiustare il suo discorso con gli altri. Deve anche integrare, creando un corpo di una unità integrante di queste discipline o meno, di dati, fino a che punto. Ecco, un secondo problema, avevo messo un terzo, ma lo lascio su. Eventualmente queste varie letture, come possono essere messe insieme tra di loro? Non so, a chi spetta questo compito? C'è anche una regia, diremmo, di questi approcci, di varie prospettive. Comunque, elencati questi temi, ritorno sul primo, che mi sembrava quello sul quale prometteva già qualche cosa, eventualmente padre Latourelle, se vuole sbilanciarsi. Ma forse si può fare allusione, non per fare una pubblicità veramente indecente. Non, anzi. Non vorrei, ma siccome... Tra poco. Sì, mi sono occupato dell'edizione di un libro che va a uscire nel corrente del mese di maggio, intitolato Problemi e prospettive di teologia fondamentale. È un lavoro che va a uscire alla Quiriniana, siamo 20 collaboratori che provengono da 10 paesi e quindi abbiamo domandato a ciascuno di dire il suo nobile parere sulla fondamentale di oggi, da orizzonti evidentemente diversi, e sono emersi pareri interessanti. E una prima cosa che si vede è il non accordo totale su che cosa è la fondamentale. Vorrei dare soltanto due o tre esempi, perché io stesso ho fatto l'elenco praticamente di tutte le nozioni, definizioni proposte dal dopoguerra. Quante sono? Dozzine. Ma vorrei soltanto illustrare tre o quattro esempi e mostrare la differenza, anzi l'evoluzione talvolta di un'apologetica. Però dice, in quanto questo discorso interessa i credenti, questo discorso apologetico potrebbe essere meglio definito fondamentale. Vedete? 64, ma non è finito. In 65, parlando della nozione di rivelazione, tradizione, ispirazione, ma in modo dogmatico, definite, dice, ah, questo sono soltanto le prolegomeni della dogmatica. Sono prolegomeni, non fanno parte della fondamentale, prolegomeni. Poi, in un Carrefour, un incontro alla Gregoriana tra diversi professori di fondamentali, dice, la fondamentale raggruppa tre elementi essenziali, la rivelazione, la fede come risposta e la credibilità, cioè rapporto tra fede e rivelazione. Poi, in 72, in Le Point Théologique, il compito attuale della teologia fondamentale, dice che la fondamentale è il luogo di un dialogo della fede cristiana con la cultura secolare del nostro tempo, comune a tutti, credenti e non credenti. E dice che per fare questo dialogo la fondamentale non può più essere soltanto un trattato classico, deve essere coestensiva a tutta la teologia, deve diventare una funzione della teologia. Deve mostrare, cioè, come il messaggio cristiano, nei suoi diversi elementi, risponde alle domande, agli interrogativi radicali dell'esistenza umana. Allora, alla fine dell'evoluzione, siamo arrivati a definire la fondamentale funzione di tutta la teologia, in quanto la teologia cerca di rispondere al significato delle realtà dell'uomo. È un grosso cambiamento. Io penso che siamo andati all'estremo, troppo. No. Non è più un settore, è una pura funzione, come potrei dire la funzione ecumenica della teologia. Si può dire lo stesso, funzione ecumenica, ma non è più un settore. Un altro esempio sarebbe per esempio quello di Geoffrey, piuttosto classico, cioè dice che ha una funzione critica, cioè analizza ciò che è condizione di possibilità della fede e condizioni di accoglienza della rivelazione attraverso per la fede, è ora des votus praticamente. E dice c'è anche una funzione ermeneutica che consiste a dire il significato della rivelazione a partire dall'intelligenza che l'uomo ha di se stesso. Più recentemente, in 77, dice la fondamentale è lo studio critico dei fondamenti dell'esistenza cristiana, cioè da una parte della rivelazione come instaurazione della fede, d'altra parte della fede come accoglienza della rivelazione. Quindi binomio rivelazione-fede. L'ultimo volume su rivelazione parla così. C'è un articolo molto importante di Stirniman, che è conosciuto. Beh, lui per esempio dice che separa completamente l'apologetica dalla fondamentale, l'isola, separa. Così priva la fondamentale di temi tradizionalmente molto importanti, che tutto ciò che riguarda i fondamenti del cristianesimo. Metz almeno in concilium ha espressioni così generali che abbiamo l'impressione che è una terra senza frontiera. spalla di tutto, praticamente, nel numero programmatico, dice che si propone di affrontare tutti i problemi che si pongono oggi, che propone oggi la necessità di approfondire la fede. Tutta la teologia fa questo. Non so se sono altri, forse questo mostra già che c'è una diversità molto grande tra gli autori, però c'è una corrente che è visibile, che dice che veramente dobbiamo arrivare a un punto di focalizzazione, di centrazione e di gerarchizzazione dei compiti della fondamentale, perché dicono adesso la fondamentale è tutto o niente, non è un settore particolare, è una pura funzione della teologia. Allora che cosa è? E perciò diversi autori, diversi collaboratori dicono dobbiamo arrivare a dire che cosa è il centro, la specificità della rivelazione, della fondamentale, e poi si potrà gerarchizzare gli altri compiti, altrimenti siamo sempre in alto mare e è sparita come disciplina, è sparita se arriviamo a questa terra senza frontiera. E questo emerge da diversi studi dei diversi autori. Domanda di una unità, di un centro di unità, di una specificità della fondamentale, e dopo gerarchizzare i diversi compiti. Questo emerge, forse questo può essere utile, vedere che c'è una convergenza abbastanza grande su questo. Per il momento manca una identità chiara della fondamentale e ci vuole una. Quale sarebbe il centro? Da questo dipende da ciascuno. Posso proporre come io vedo la cosa? Io penso che una domanda alla quale la Chiesa come Chiesa deve e dovrà sempre rispondere, una riflessione che fa e dovrà sempre fare, cioè riflessione che ha come oggetto l'irruzione di Dio stesso nella storia dell'umanità come una realtà veramente accaduta e veramente significante, sensata, intelligibile per l'uomo. Cioè, se la Chiesa cessasse, anche se non sono credenti, anche se non sono credenti, la Chiesa per se stessa, per vivere, deve sapere che veramente c'è stata un'irruzione di Dio nell'umanità, che questo è certo e che ne abbiamo dei segni. Ci vuole, si parla di credibilità, però questo tema della credibilità è capito adesso in modo molto più ampio, cioè in due parole sarebbe, per formulare in una parola, in una sentenza, la credibilità della rivelazione di Dio in Gesù Cristo. La rivelazione, la credibilità della rivelazione di Dio in Gesù Cristo. Ma precisando ogni parola di questo. Quando dico rivelazione, intendo non soltanto il fatto, ma intendo anche la totalità, fatto, mistero, e intendo tutta l'economia della rivelazione, di questa irruzione dell'umanità, cioè tutta l'iniziativa trinitaria che inizia con la creazione, si continua con l'incarnazione, la redenzione, la croce, la Chiesa e l'escatologia. Per me, quando dico la rivelazione, dico fatto mistero e tutta questa economia, perché altrimenti è una cosa troppo ridotta, non è più la realtà sulla quale la Chiesa deve riflettere su questa totalità. Poi, secondo punto, questa realtà come credibile, per usare un termine classico, come credibile, Ma che cosa significa credibile? Qui il credibile e il creduto è lo stesso, cioè è Cristo, Cristo tra noi, come Dio tra noi. E questo è l'affermazione centrale, è questa, l'affermazione che Cristo è Dio tra noi. Questo è creduto e questo è credibile. Quando si dice credibile, prima si diceva credibile perché? Perché ci sono dei miracoli, delle profezie che provano, che dimostrano l'origine divina del messaggio cristiano. Non è falso, ma è un po' ristretto. Quindi anche il termine di credibilità deve essere molto ampliato. Cioè, infatti, che cosa vuol dire la credibilità di questa affermazione? Dio fa irruzione nella storia dell'umanità per salvarla in Gesù Cristo. Che cosa significa dire che questo è credibile? Io penso che questo comporta tre verifiche. Cioè, comporta la verifica che questo Gesù ha esistito e che si può conoscere, che si può conoscere il suo messaggio, che si può conoscere il suo invito alla conversione, all'entrata nel regno. Questo penso che è la prima verifica da fare. Secondo, questo messaggio raggiunto o è raggiungibile, dobbiamo domandare: è un messaggio che è significante o insignificante per l'uomo? E a quale punto è insignificante o significante? Quindi per me viene qui l'antropologia filosofica in chiave fondamentale. Mostrare che il messaggio di Cristo e lo stile di vita di Cristo veramente illumina, decifra, interpreta la condizione umana e tutti i problemi scattanti dell'uomo, i suoi problemi concreti. Le decifra e le illumina al di là di ogni speranza, supera la soluzione prevedibile. C'è un compimento che è un superamento. Allora, alla fine di questa seconda verifica, normalmente sorge, penso, la riflessione: ma allora, se è così, se questo messaggio illumina, decifra, supera, al di là di ogni attesa umana, i problemi dell'uomo e della condizione umana, chi è questo uomo? Allora arriva: chi è Gesù? E penso che arriviamo alla terza verifica: chi è Gesù? Cioè l'identità di Gesù come Dio tra noi. Ma la Chiesa lo dice: Gesù è Cristo, Gesù è Signore, Gesù è Figlio di Dio. Allora questo si manifesta come? Attraverso precisamente tutta la persona di Gesù. È perciò che il Concilio Vaticano II dice: tutta sua presenza e manifestazione ad mondum, tutta ipsa, con le stesse, le medesime realtà con le quali ha rivelato, si è autentificato come rivelatore in persona. Con le stesse, cioè, rivela l'amore, ma lui è l'amore in un tal modo che rivela un amore tra di noi che è l'amore tutt'altro. Abbiamo il segno che tra di noi è l'amore tutt'altro. E lo stesso per tutti i segni che si possono enumerare. Ma Cristo lo fa, o fa questi segni attraverso l'irradiazione della sua persona, attraverso la gloria della sua persona. Non sono cose esterne a Gesù, è Gesù stesso in persona che irradia da se stesso, che fa segno che la gloria abita in lui, la gloria del tutt'altro è in lui. Io penso che la credibilità e la rivelazione come presentata Questo per me sarebbe soltanto lo sguardo dal di dentro della Chiesa. La Chiesa deve fare questa riflessione per se stessa innanzitutto, altrimenti è fideista. Quindi dovrà e non può trascurare senza tradire la sua propria natura. Quindi è un lavoro per la Chiesa stessa e per i credenti che fanno delle domande. Ma questo non impedisce che c'è uno sguardo verso, come si dice, l'esterno. Verso l'esterno, cioè i problemi che sono al fuori. Allora, che cosa significa questo? Questo significa che una religione che si dice l'unica, la sola grande epifania di Dio del mondo, deve situarsi anche verso le altre religioni che si dicono anche di salvezza, deve situarsi di fronte agli interrogativi delle grandi filosofie, non so, Marx, Feuerbach, Nietzsche, Freud, tutto ciò che si vuole. Ma tutto questo è la Chiesa, è il teologo credente che lo fa per la Chiesa e eventualmente per i credenti che interrogano e anche per i non credenti che fanno delle domande. Questo, ma io direi che questo è la teologia fondamentale nella sua totalità. Questo è ben diverso dell'ordinamento didattico della materia della fondamentale. Questo è un altro problema. Questo, direi, è la realtà che la fondamentale come disciplina, come settore della teologia autonomo, perché solo la fondamentale fa questo. Solo la fondamentale risponde a queste domande. Solo. Non lo fanno le altre discipline. E il problema è abbastanza ampio per costituire una provincia della teologia. Ma l'ordinamento teologico viene dopo e evidentemente non copre l'ampiezza di tutto questo. Neppure una facoltà, neppure una città, neppure un continente può fare tutto questo lavoro. Dico che è un lavoro ecclesiale, appartiene alla riflessione ecclesiale totale, come la riflessione medica appartiene al corpo sociale medico, come la psicologia appartiene al corpo sociale psicologo. Nessuno può possedere tutto questo, ma è necessario. Quando si passa all'ordinamento didattico, io penso di così, posso sbagliarmi, io penso che il nucleo, cioè rivelazione come economia, cioè tradizione e ispirazione, e come credibilità nelle linee essenziali deve essere trattato al primo ciclo, deve, cioè al corso istituzionale, è una necessità. Se questo viene trascurato, lo so da esperienza, ci sono crolli di fede. Io l'ho detto, la fede non è meno vulnerabile per mezzo della filosofia che della storia, eccetera. E poi io penso che in un secondo momento di approfondimento si può trattare le questioni che ho detto da lì fuori, cioè rapporto con le altre religioni, rapporto con le altre filosofie, rapporto specifico e determinato con le altre scienze. Questo si può fare a livello del dottorato o delle licenze specializzate. Al primo ciclo si potrà fare in modo vissuto, forse dal professore, che non lo dice, ma che può farlo, senza dirlo in modo specifico. Al momento della specializzazione del dottorato si può fare, ma anche in questo ordinamento didattico non si può pretendere che avremo coperto tutto il campo della fondamentale, è impossibile. Avremmo coperto molto, avremmo fatto, direi, io preferisco al tema delle falsificazioni avremo fatto delle approssimazioni progressive. Delle approssimazioni progressive. Penso, a me mi piace più questa parola. Quindi, come primo sguardo, vedo la cosa un po' così. Grazie, va. Il padre Kern vuol dire qualche cosa? Essenzialmente sono tutto d'accordo con questo che il padre Latorel ha detto. Vorrei aggiungere alla determinazione del padre Latorel che la credibilità della rivelazione in Gesù Cristo è il scopo della teologia fondamentale, sì. Soltanto tre, queste tre parole esplicite o esplicitanti, si può dire così? Sì. La credibilità della rivelazione in Gesù Cristo mediante la Chiesa. Ah sì, la trasmissione. Che Gesù è il figlio di Dio mi sembra piuttosto il tema centrale della cristologia dogmatica, ma è una questione secondaria per noi qui. Generalmente mi sembra, si posso aggiungere questo, che la teologia fondamentale deve riflettere in diretto questo che le altre discipline teologiche fanno in obliquo. Direttere in refletto, riflettere in diretto vuol dire mettere insieme metodicamente e sistematicamente, investigare le strutture, le implicazioni, le presupposti, le conseguenze dell'aspetto apologetico della fede cristiana e della speranza cristiana, secondo quel verso della seconda lettera di Pietro, capitolo 3, verso 15. Finalmente direi con coraggio estremo, che a mio parere la detta crisi, eccetera, della teologia fondamentale non dovrebbe essere esagerata. Mi sembra che quasi tutti i temi della teologia fondamentale che io ho imparato 25 anni fa sono attuali e indispensabili, che altri temi devono complementare questo depositum di sapere, ma io faccio un corso, lezione su questi temi che sono conosciuti a tutti voi. E mi sembra che questo è molto, molto necessario. Quali temi, dice? Questi qui che abbiamo fatto questi giorni? Un'analisi antropologica. Logica. Una riflessione iniziale, almeno, su contenuti centrali del Vangelo stesso. Tali contenuti sono l'umanità, la filantropia del Dio di Gesù Cristo, il carattere liberatrice del suo Vangelo contro le ideologie, soltanto negativi il imperativo d'essere sempre pronto a condonare agli altri, a riconciliarsi con loro, l'annuncio di una salute definitiva che è donato da Dio stesso e che non deve essere realizzato dall'uomo solo. E questo è un punto fondamentale dell'annuncio liberatrice, che non noi siamo quelli che devono fare la salute dell'umanità stessi soli. E terzo ancora, mi sembra, e questo è un punto un po' piuttosto nuovo, il programma dell'ortoprassi non è soltanto una cosa del futuro, dell'avvenire. Sarebbe una speranza un po' utopica. No? Utopica, forse. Mi sembra che nei 2000 anni della storia del cristianesimo ci sono molti punti dell'una ortoprassi nel passato. C'è una storia dell'effettività anonima del cristianesimo verso l'umanizzazione dell'umanità universale. L'origine della moderna civilizzazione, che non è così cattiva come dicono 8 anni fa. L'origine della coscienza dei diritti fondamentali dell'uomo, la conoscenza che c'è una libertà, egalità, fraternità come destino progressivo dell'umanità. L'origine della moderna scienza naturale e tecnica. Anche la tecnica non è così cattiva. Tutti questi sono, mi sembra, impulsi originari del Vangelo di Cristo o della Bibbia intera, della fede nella creazione e del Vangelo di Paolo e di Gesù stesso. Mi sembra questi sono gli impulsi del Metz anteriore anche. Sono quasi alcuni aspetti di una teologia fondamentale, spero, di oggi. Mi sembra che la relazione con la teologia fondamentale di ieri e anti-ieri sono abbastanza strette e buone. Questo è il punto, è stato il punto del mio coraggio estremo di dirlo, perché non sono moderno. Una piccola chiosa. Quando ho parlato delle difficoltà sperimentate a proposito dell'unità, dell'identità, della fondamentale, lo dico perché ho fatto un'inchiesta in diversi paesi, in molte facoltà del mondo, e ho ricevuto e visto i libretti di migliaia di studenti del mondo intero. Ora sono stato sbalordito di vedere che cosa era diventata la fondamentale. Quindi è a posteriori che lo dico, spesso è sparito. O ancora è frammentato, c'è un pezzo qui, un pezzo qua, c'è un professore che, sì, uno parla dell'ispirazione quando fa il suo corso di scrittura. Un altro, a proposito dell'esegi, dice qualche cosa sui miracoli. Un altro parla della rivelazione quando tratterà un altro tema. E altri temi importanti sono completamente trascurati. Non esistono. Allora, perché? Penso che il rinnovamento di molte scienze, come le scienze bibliche, specialmente scienze antropologiche, è stato così rapido che i professori, il cui numero è calato molto in fondamentale, non hanno potuto fare l'aggiornamento necessario. Si sono sentiti un po' presi di sorpresa e non avendo la possibilità di fare un insegnamento coerente e completo, spesso hanno disperso la fondamentale qui e qua tra diversi professori, e è un po' a questo che facevo allusione. Ma una volontà di un ritorno a una identità, una unità si fa sentire dovunque. Grazie, allora sentiamo rapporto di con Groff, cosa reagisci, come reagisci, come vedi? Nella prima serie di domande, che cos'è la teologia fondamentale, siete quali fondamenti pone, e qui non mi sento adatto a dare risposte perché mi sembra che superi completamente quella che è la mia preparazione. Tenterei invece di riassumere qualche cosa a proposito della seconda domanda, cioè dell'atteggiamento del teologo nei confronti delle scienze umane che lo interpellano. Giustamente noi abbiamo elencato dei modelli, adesso non mi limito soltanto alla psicologia, ma vorrei tentare di vederlo in rapporto a tutte le altre scienze. E mi sembrerebbe di poter dire questo. Potremmo essere probabilmente d'accordo sul fatto dell'abbandono di un modello di tipo gerarchico o di un modello di tipo riduttivo. Mi sembra che la teologia non può mettersi nei confronti di qualunque altra scienza in questo atteggiamento di tipo gerarchico. E mi conforta il fatto che all'inizio del decimo o quarto secolo, in un manoscritto non ancora pubblicato, che per caso io ho guardato, un grosso teologo come Hervé Odiné de Leck si domandava se la teologia poteva subalternare le altre scienze, e risponde no, in nessun modo, nessuna scienza è subalternata alla teologia. E fa piacere trovare che posizioni che noi crediamo di aver raggiunto adesso si trovavano già allora. Questo, un'altra cosa interessante è che il modello riduttivo mi sembra, cioè per esempio identificare, far della teologia una sociologia, un nuovo tipo, mi sembra che distrugga le due scienze, non riesco ad accettarlo. Quindi su questo punto forse potrebbe esserci una certa convergenza di dire nella teologia fondamentale, la teologia fondamentale, allorché interpellata dalle altre scienze, entra in dialogo con loro, non può assumere l'atteggiamento o gerarchico, cioè il modello gerarchico, o l'altro atteggiamento riduttivo, no? Questo primo punto. Il secondo punto invece è possibile allora un dialogo tra teologia e psicologia, tra teologia e sociologia, tra teologia e altre scienze, storie, eccetera? Ecco, io ritengo, adesso mi limito alla psicologia e alla sociologia, siccome queste scienze si interessano dell'uomo, vogliono spiegare l'uomo, siccome la teologia, alla luce della rivelazione di Dio, vuol spiegare l'uomo oggi, tenta di capirlo, possono mettersi in dialogo. Ciascuna col suo metodo entra in contatto con l'altra, ciascuna riconosce le competenze dell'altra e discutono insieme per illuminare insieme questa realtà e per capirla meglio, e naturalmente in funzione di un tipo di sapere poi pratico, progettuale, che serva per una umanizzazione migliore dell'uomo e per il cristiano una umanizzazione aperta anche alla trascendenza, alla vita divina, eccetera. Poi resta ancora l'altro aspetto, quella della utilizzazione, che aveva suscitato dei problemi. Allora, ripensandoci, penserei questo. Mi sembra che la teologia possa e debba accettare sia la critica attuata dalle scienze psicologiche e sociologiche nei confronti di una fede, di una teologia e di una religiosità o nevrotiche o inadeguate, però accettare criticamente, e così pure potrebbe accettare criticamente le nuove prospettive sull'uomo, su tante realtà che servono per comprendere meglio la parola di Dio nell'oggi. Solo che in questo caso accettare criticamente significa che essa, nel suo sforzo di penetrazione della parola di Dio, sente il bisogno di interpellare tutta la cultura circostante per avere tutti i mezzi necessari per poter chiarire la parola di Dio nell'oggi e allora naturalmente prende questi dati culturali, ma li adatta, li struttura nel contesto dei contenuti della fede. E questo lavoro è un lavoro che è in continua crescita, è un lavoro che non è mai definitivo, e partendo da punti di partenza diversa dovuti ai diversi sistemi teologici diventa un lavoro pluralistico, uno lo farà in un modo, un altro in un altro, non solo, ma è anche un lavoro che si perfeziona continuamente attraverso nuovi apporti. Se questi li possiamo chiamare invece di falsificazione approssimazioni, va bene. A me piace l'altro termine per l'altro motivo che ho detto, ma comunque non voglio essere da questo punto di vista qui esclusivo. Ecco. Grazie. Allora riprendiamo adesso, dopo di aver ascoltato queste tre reazioni, un nostro dibattito. Ancora, se qualcuno vuole intervenire. Abbiamo sentito la credibilità rimane un po' al centro, secondo le prospettive, specialmente di padre Laturella e Kern, però interpretata in senso da inglobare anche la significatività, praticamente. Mi sembra che oggi la Fondamentali si preoccupa molto più di capire, di cercare dei significati, che di avere un martello che va a provare assolutamente. Cerca molto più dei significati, mostrare delle cose sensate, significanti, intelligibili, coerenti. Io trovo che qui c'è un orientamento che è completamente diverso. Di più posso dire, mi sembra che la Fondamentale vede molto più di prima le difficoltà della sua disciplina. Penso, non è orgoglio dire, che è più modesta che di prima, perché si rende conto che le cose non sono così semplici. Prima si faceva una prova apodittica e entra nella Chiesa, entra nel cristianesimo, tutto è provato. Penso che questo terminato è acqua passata. È più umile, più modesta e, come ho detto, più in ricerca di senso, di significato, perché questo conta sopra di più. Per ciò che riguarda le scienze tra di loro, io ho sempre pensato che le scienze sono a vicenda principale o ausiliare. È a vicenda. A un certo momento la filosofia principale, altre scienze di cui si serve la filosofia, diventano ausiliari. E lo stesso una scienza che era principale e semplicemente ausiliare. Per esempio il teologo che fa scienza speciale, senso molto speciale, sui generis scienza, perché ha un dato rivelato, è sottomesso al magistero e vuole capire il disegno di Dio sulla salvezza degli uomini, quindi scienza sui generis. Però quando deve riflettere sui diversi oggetti dello studio suo, a causa dell'oggetto studiato, per esempio, se io devo fare lo studio di un testo del Vangelo, della Scrittura, io dovrò fare appello a delle scienze ausiliari, filologia, critica letteraria, archeologia, eccetera. Queste scienze sono ausiliari e devono essere usate secondo il loro metodo stretto, rigido. E a questo momento sono ausiliari. Come, non so, forse potrei fare una cosa che non è forse chiara, ma potrei dire anche in un certo senso che Teilhard de Chardin, facendo il paleontologo, per lui è la sua scienza principale, a un certo momento vede nell'armonia, dico nell'armonia, non è una dimostrazione, ma è una mostrazione, vede nell'armonia che il cristianesimo sembra dare al movimento dell'evoluzione, trova una luce per lui. A questo momento direi che il cristianesimo è diventato quasi ausiliare, perché lui ha come scienza principale il movimento evolutivo e si fa aiutare, illuminare, però questo con cautela. Fino volevi. Una domanda al padre Latorelli. Lui prima ha criticato sia la nozione dell'ultimo, cui ha anche la premessa. Cioè a questo punto la teologia fondamentale diventa una terra senza frontiere. Una funzione. Buiard dice che deve essere funzione di tutta la teologia, che deve cercare come il cristianesimo chiarisce la condizione umana. Esatto. È questo. Poi però quando lei ha dato la sua definizione mi sembra che vada a dire la stessa cosa. No, perché posso dire il perché? Dica. Un momento. Perché lei al fondo dice che l'oggetto della teologia fondamentale è la riflessione sulla credibilità della rivelazione di Dio in Gesù Cristo. Sì, come globalità. Globalità. Credibilità significa dare un senso, sì, almeno nel senso del suo significato. Sì. Rivelazione di Dio in Gesù Cristo lei l'ha definito come nell'economia totale. Sì. E nell'iniziativa trinitaria, incarnazione, ecclesiologia, antropologia e scatologia. Globalmente prese. Globalmente, come economia, non dire soltanto rivelazione e basta, perché la rivelazione è un'azione dinamica. Ma questo penso che sia presente anche in quegli autori, questa globalità. Sì, però il nucleo, il campo, il territorio, diciamo, il territorio che si esplora non è tutto il campo e ogni mistero. Non si tratta della globalità, credibilità della totalità, la credibilità della totalità, dell'insieme, del blocco dei misteri. Invece la delle costanti, allora? Come? Delle costanti del mistero cristiano? Dico della realtà globale che include tutti i misteri particolari, ma questo non mi importa per il momento. Che non studio l'Eucaristia, non studio l'unzione degli infermi, non studio questo, no. Guardo la globalità della realtà rivelazione, cioè irruzione di Dio nella storia. Questo è il nucleo, il blocco, come totalità. Non entro nelle particolarità, non è il mio compito. Ma se io dico invece che la fondamentale si occupa soltanto di dire attraverso tutta la teologia, è la teologia stessa, tutta la teologia, ma in quanto mostra come ciascuno mistero ha un senso per l'esistenza umana. A questo momento non ha più un territorio speciale, è una funzione. Come potrei dire che c'è una funzione ecumenica in tutti i misteri? In tutti i misteri posso mostrare l'aspetto ecumenico, ma non è più un territorio speciale, non è più un settore particolare. È soltanto questo. Dico che a questo momento forse raggiunge un po' il progetto del Grundkurs di Rane, benché Rane non parla di teologia fondamentale, eh? Non è lo stesso. Grundkurs sulla teologia. Sì, però nell'introduzione è preciso, non dice teologia fondamentale. Ma io trovo che Buiard è andato un po' troppo lontano. Dico soltanto questo. Ma non potrei stare. Riferirmi invece a una dialettica che ormai mi sembra abbastanza pacifica, la ratio stesso della Conferenza Episcopale Italiana sui seminari di studi dice delle cose a me sembra buone quando sostiene che sono importanti tutte e due le cose, delle materie specifiche e le dimensioni. Allora quando io trovo un autore il quale scopre che la dimensione che le dice lei di credibilità di dimostrazione della, non soltanto credibilità, della significatività, della valenza, deve essere fatta sempre, io credo che non per questo devo supporre che impedisca che esista, sì. Anzi ritengo che giustifichi ancora di più l'esigenza di una materia settoriale. Cioè se io voglio che la dimensione ecumenica entri nella teologia, devo anche fare una struttura. Posso aggiungere, ma poi al fondo questa settorializzazione della teologia fondamentale, sì, non è un dato storico molto recente. comincia con l'illuminismo. Ah, se, cosa dico, non dico che è una cosa la molto antica. La Gentiles, cos'è? Non dico che è cosa molto antica, ma dico che l'evoluzione mi sembra andare... È molto legata a quel periodo storico, una volta superata quel periodo storico. Sì, sì, è recente. Che sia recente è vero. Sono d'accordo. Sì, sì, sono d'accordo. Marco. Sì, sentiamo una nuova voce. Nel tecolo dice Charon e Duplessis e Savonarola. Sono opere apologetiche e oggi diremmo di teologia fondamentale, è un po' più vecchia che l'illuminismo. Benché nell'illuminismo i teologi hanno risposto a questa sfida di dare argomenti razionali della natura umana, eccetera, e di dimostrare che il scopo della teologia fondamentale è di dimostrare che Dio solo può dire all'uomo che la via alla salute eterna, quali gebote, mandati gli uomini debbono osservare, eccetera. No? Allora, mi sembra che la teologia, che il contenuto della teologia fondamentale questo non è una questione decisiva. Se la teologia fondamentale di due secoli o cinque secoli, se sarebbe vecchia soltanto due decenni, forse più attuale. Marton, una domanda di chiarimento a Padre Latour. Mi rifaccio una distinzione che faceva Don Pino ieri sera, quando parlando di teologia fondamentale diceva c'è un ambito didattico dentro al quale riconoscerei l'utilità e anche la preoccupazione di garantire questo spazio riservato alla teologia fondamentale, ma poi diceva c'è anche l'ambito nella prassi della comunità. Ecco, per questo secondo ambito, penso così, occhio e croce, che non ci sia altro spazio se non il diffondere in tutta la teologia questa dimensione, chiamiamola, di fondamentale, questa preoccupazione di significatività e di senso. È un po' questo che propone Stirniman nel suo articolo, quando insiste praticamente la praxis diventa una dimensione di tutta la teologia. Per me la teologia fondamentale, secondo Stirniman, è molto più un discorso metodologico, secondo me, un discorso metodologico più che una fondamentale, secondo me è questo. E perciò insisterà sui diversi binomi, praxis, fede, eccetera, ma per lui sono delle dimensioni che percorrono la teologia. Allora è un discorso teologico che vale per tutta la teologia. Per me, mi sembra. Moser, ma non è il famoso... Se questa irruzione di Dio in Gesù Cristo si continua nella comunità ecclesiale in forma speciale, può o deve la ecclesiologia diventare un tema specifico, un tema settoriale della teologia fondamentale? Nell'ordinamento pedagogico penso che possiamo conservare i temi, le questioni direttamente collegate al nucleo, al blocco. Quando ho detto per esempio la rivelazione nella sua trasmissione attraverso i secoli per mezzo della tradizione e della scrittura ispirata, questo è il blocco centrale, è la dei verbum. E questo, in questo senso problemi anche come ecclesia, magistero, teologia legati alla scrittura e alla tradizione sono materiali fondamentali perché fanno parte di questo blocco inseparabile, di questa economia inscindibile. Perché dire rivelazione basta non va. Non anche altri temi, per esempio le strutture della Chiesa, il divenire storico dell'episcopato, del primato, non è anche un tema della teologia fondamentale? Qui c'è cinduntur autores. È veramente, cioè adesso io vedo che in diversi luoghi fanno così, trattano per esempio l'ecclesiologia in un blocco totale, ma hanno una parte, un tema dell'ecclesiologia che si chiama l'istituzione della Chiesa. E a questo momento trattano questa parte, che sarebbe un momento fondamentale, direi, un momento apologetico in un insieme che è prevalentemente dogmatico. Fanno un'ecclesiologia che ha una maggior parte dogmatica, però a un momento della sua riflessione sulla Chiesa, il teologo fa una riflessione tipo fondamentale. Perciò io dico che separare dogmatica e apologetica non va più, non va più. La dogmatica a certi momenti deve fare una riflessione di tipo apologetico, critico, come volete, e la fondamentale fa una riflessione di tipo dogmatico, per esempio per sapere che cosa è la rivelazione. Non è una cosa che cade dal cielo, solo la scrittura lo dice. Allora, siccome la fondamentale fa alcuni momenti di dogmatica, lo stesso per la dogmatica. Però, mentre la dogmatica fa della particolarità di ogni mistero in particolare lo studio privilegiato, la fondamentale fa del blocco dei misteri come blocco, o cioè il grande fatto mistero della venuta di Dio nella storia umana, fa di questo blocco unitario non ancora spezzato, lo fa l'oggetto privilegiato della sua riflessione, e basta per fare un territorio. Io vorrei intervenire con un'altra provocazione, anche per riaccendere la miccia, ma per dire che fra 10 minuti finiamo, per i tre quarti, è questo, cioè recepisco questo fatto che mi sembra significativo. Ormai la teologia fondamentale da una parte recupera una credibilità così ampia e così adeguata alle istanze culturali di oggi che la fa passare attraverso prevalentemente la provincia della significatività. E poi secondariamente recupera la rivelazione essenzialmente e primariamente come fatto storico, come storia globale. Economia storica. Io a domando adesso, mi sembra però che è stato tenuto poco conto, domando adesso così provocatoriamente, al di là di un intervento di padre Kern, che la ragione in fondo da discutere è la svolta antropologica, cioè l'oggetto della teologia è Dio, è chiaro ultimativamente, ma non è anche l'uomo, anzi l'uomo come mediazione anche della rivelazione. Quindi questa lettura del problema di Dio, teologia, nell'uomo implica, direi, questa nuova accentuazione della significatività, che è prendere più sul serio l'uomo. E seconda domanda, allora, che non ho visto presente, se non ripeto un po' nella discussione di padre Kern, della prassi, l'ortoprassi, cioè questo bisogno di tener conto di un uomo che progetta e deve essere aiutato nel progetto. E all'interno, allora, terza osservazione di questo discorso, che io vedrei un recupero della vicinanza del tema Chiesa al tema, direi, rivelazione e fede. E mi leggo anche il dibattito ecumenico. Fede e Costituzione sono strettamente connesse. Se la parola di Dio è sempre una storia e la sua incarnazione dentro e la trasmissione nella storia avviene sempre attraverso una Chiesa che vive prassi, il suo, ecco la storicità, il suo storicizzarsi, intermediarsi lungo i secoli, non investe solo formule, ma anche la strutturazione della Chiesa. Allora il tema di svolta antropologica e di praxis, lette nel contesto della storicità, obbligano a recuperare, non a radicare unicamente la teologia fondamentale nel discorso la rivelazione soltanto, no, non credibile, ma anche la Chiesa. Sì, come dico, domando loro tre, ecco, io dico che per me adesso vedo una grande diversità di pareri. Per cui allora si può discutere. Ecco. Lei parla Kern? Non so. Lei cosa pensa? Allora, io sono d'accordo con questo che lei ha detto, ma mi sembra, se il padre Latorel ha parlato sulla credibilità, in questo è contenuto che c'è una cosa dell'uomo, e la rivelazione c'è la cosa di Dio per noi, ma la credibilità c'è l'aspetto esteriore, l'aspetto, un aspetto molto ampio e molteplice, e perciò mi sembra sono molti aspetti di una teologia fondamentale di oggi. La risurrezione di Cristo anche appartiene a questo, mi sembra. È un capitolo che non si deve lasciare a parte, e sono molte cose di un diverso metodo, eccetera, di un diverso contributo piuttosto della filosofia, della sociologia, della storia universale, eccetera. Ma io sono non un contrasto, per esempio sulla Chiesa, sì. Io dico come trattare i famosi segni, sì, della presenza di Dio tra noi. Io dico non cominciare con i miracoli, questo è troppo estrinseco, perché sono dei francoboli su una lettera, questo non va più. Dico il segno è Gesù, allora Gesù e la sua Chiesa, la sua opera. Allora io comincio lo studio della credibilità, cioè i segni, la terza parte, per identificare progressivamente chi è Gesù, a partire dei segni che io chiamo fondamentali, Cristo stesso e la sua opera, la Chiesa. Allora io ho scritto già un grosso libro di 350 pagine, Cristo e la Chiesa, segni di salvezza. Poi, in un altro tempo, passo ai segni particolari. Ma non mai iniziare con i segni particolari, perché il segno è la Chiesa, è Cristo e la sua opera. Allora si parla molto della Chiesa, però non nel senso di un trattato completo di ecclesiologia. Aspetto credibilità. Niente da dire. Che concludiamo così con questa nota anche di umiltà. Piecre. Sono stato molto senso, ma il padre Kern ha menzionato esplicitamente come prima parte del suo programma antropologia. Si potrebbe sapere qualche cosa di più sui lineamenti fondamentali di questa antropologia. Poi volevo chiedere al padre Latorel, presenta anche lui in qualche maniera un'antropologia per giustificare il fatto che il messaggio di Gesù e lo stile di vita di Gesù è tale da rispondere a tutte le attese dell'uomo, da superare addirittura queste attese, da superare ogni attesa e le speranze anche piacere dell'uomo, che punto di come sviluppa il punto di riferimento appunto di per questo necessario per questa affermazione. Sì, io penso che questo si deve fare, però non si fa in modo così elaborato come si potrebbe fare un grande trattato sull'antropologia cristiana. No, è fatto in modo direi abbreviato, soltanto per dire l'essenziale, come i grandi problemi della condizione umana sono illuminati. Ma non è ancora un grande trattato di antropologia per niente, è ridotto. Come per esempio si potrebbe dire in altre parole, sarebbe, no, non una dogmatica abbreviata, ma diciamo un'antropologia abbreviata, soltanto in questa prospettiva, dà significato pieno, definitivo ai problemi umani. Basta per argomento di credibilità, niente di più. Piecle non vuole venire, sì, ad ascoltarla, sì, lei a Innsbruck, è meglio che dica lei cosa. Sì, sì. Si può dire brevemente. La funzione dell'analisi antropologica mi sembra può essere mostrare che l'uomo è un essere di trascendenza, di immanenza e di una indigenza. Si può dire così? Sì. Trascendenza vuol dire l'uomo sta in un traspasso continuo dinamico verso l'assoluto, forse senza saperlo. E questo è il punto dove forse può venire una cosa come una rivelazione. Secondo, l'uomo è immerso nel mondo materiale, nel spazio e nel tempo, e il suo carattere essenziale in questa direzione è la sua storicità. Senza questa storicità non saremmo pronti a ricevere una rivelazione storica della Palestina di 2000 anni fa. E terzo, l'uomo è un essere segnato, qualificato di un'indigenza profonda, non soltanto ha bisogni materiali, ma anche e soprattutto spirituali. E questa indigenza è forse un'angoscia profonda, indeterminata, una mancanza di comunicazione, tutte queste cose. E per questo uomo di trascendenza, di un'immanenza e questa erlösungsbedürftigkeit, also questa bisogno di salvezza, è il der Adressat der Offenbarung, il destinatario di una rivelazione forse possibile. Questo può dire la filosofia un po' strapazzata. Con questa parola di strapazzo finiamo almeno tre conclusioni. Abbiamo la teologia non soltanto fondamentale, è rimandata oltre che alla materia scolastica, alla comunità dove si dovrebbe fare. Questo attraverso il rimando a una comunità dove si vive l'esperienza di fede, c'è un rimando anche all'uomo e a tutto il mondo dell'uomo, ci porta avanti anche una serie anche di conquiste, di cui è ottimista anche padre Kern, scienze tecniche, dalle quali noi ricaviamo una provocazione ad essere un po' più modesti ma qualificati per dare al cristianesimo un senso di significatività. E con questo noi ringraziamo tutti. Ringraziamo anche la tecnica moderna che ci permette di fare in una giornata e tre ore un convegno che di solito si dovrebbe distendere in 3-4 giorni. E se vuol dire una parola. Non è ancora significativo come tale. Ciò che è realmente accaduto è perché diventi significante, no? Ha bisogno di qualcosa di diverso. Siamo noi che diamo significato a ciò che è. E lei stesso, citando il Maruzzi, bene o male lo affermava, anche questo, no? E ora ecco la domanda. Non le sembrerebbe che forse ci potrebbe aiutare per cogliere questo nesso tra ciò che è accaduto, anche se con questi limiti, e il significato che diamo? Qualche teoria epistemologica moderna, mi riferisco soprattutto a Popper. Sì. Al fondo per Popper il significato della verifica o falsificazione è quella di è molto negativo, no? È impedire che alcuni significati vadano per conto loro, senza nessun rapporto con la realtà. Al fondo la conclusione dei criteri convergenti è più di questo, no? Cioè domanda, è più di questo. Sì. Cioè mi impediscono che alcuni significati che la fede da la fede della Chiesa da siano completamente fuori completamente falsi, completamente impossibili. Per cui la verifico continua come falsificazione dei significati che la fede dà. No, io, come vede lei questo? Sì. Ho detto che i criteri sono un'ultima tappa di un processo al rovescio, che va dalla fede e attraverso le testimonianze di fede raggiunge Gesù, ma Gesù già significante. E ciò che ritroviamo come criteri non sono dei fatti brutti materiali, e questo si dimentica. Ritroviamo un Gesù già significante, che aveva già dei progetti. Quando manda i suoi in missione è già un progetto realizzato. Quando adotta un atteggiamento verso i poveri e i peccatori marginati, sono delle decisioni, quindi manifestano già la sua intenzione. Ciò che fa la sua morte è già significante, non è un defunto. Questo defunto aveva già il suo progetto di vita, la sua intenzione. Io dico che il procedimento è sempre lo stesso. Mai abbiamo dei fatti brutti. E anche quando ritorno con i criteri, non intendo ritrovare con questi criteri un Gesù neutrale, senza interesse, insignificante, puramente materiale, ma cerco di ritrovare Gesù, per esempio, i suoi rapporti col Padre, il suo invito a entrare nel regno attraverso la conversione. Sono Gesù significante, perché non è soltanto un Gesù materiale, questo Gesù aveva già, e questo si può ritrovare attraverso l'analisi sia letteraria sia storica. Perciò ho detto che è difficile talvolta dire chi ha l'ultima parola. Spesso la critica letteraria va praticamente a fondo, e le frontiere tra le due non sono separabili. E anche vorrei far notare, perché questo talvolta si dimentica, alla risurrezione e dopo la risurrezione, che cosa sappiamo su questo avvenimento? Quasi niente. Che cosa hanno detto gli apostoli? Quasi niente. Soltanto una cosa: non guardare al cielo, andare, ritornare al prima, cioè ritornare al passato come superato. Ritornare al passato, sì, già significante, ma adesso meglio capito. Già il risorto stesso rimanda al suo passato e ci invita a riflettere su tutto ciò che lui ha fatto, il suo stile di vita e tutto ciò che ha fatto. E è molto significativo questa sobrietà del risorto che rinvia al suo passato. Il crocifisso è il risorto è io stesso di ieri. Quindi andate, vedete ciò che ho fatto, detto durante la mia vita, per capirmi, perché sono lo stesso, però in una condizione assolutamente diversa. Sono due cose insieme, lo stesso, però in condizione diversa. Se sono lo stesso, non guardare il cielo, ma tornare e vedere tutto ciò che ho fatto. E allora ritorniamo a un Gesù significante, non a un Gesù puramente tipo scuola liberale. Sì. Ma è la critica letteraria come tale che mi fa, la critica storica, sì, che mi fa tornare al Gesù significante, o che mi permette di incontrare il Gesù significante? Mi permette, perché fa parte di tutto il processo, perché questo processo di ritrovamento di Gesù non è puramente legato ai criteri di storicità, per niente. Dico soltanto: primo passo, priorità, critica letteraria. Secondo passo, è il momento della scuola delle forme, di pari passo critica letteraria e critica storica. Terzo passo, arriviamo talvolta unicamente alla critica storica. Ma per lungo tempo critica letteraria e storica lavorano insieme. Ma alla fine, arriviamo specialmente per gli avvenimenti, che cosa è capitato, perché Gesù non ha raccontato i suoi miracoli, per esempio, li ha fatto, non li ha raccontato. Allora devo avere mezzi per vedere se c'è qualche realtà sottogiacente. Quindi io penso che il processo è della fede, tranquillamente, con la critica letteraria storica, per ritrovare un Gesù significante e poi ritornare di nuovo al Gesù di oggi. è un andato e ritorno, è una circolarità, come dice Caspar, una circolarità costante. E limitare o rendere la via unilaterale, penso che è un blind alley, come si dice, via senza uscita. Ma io non dico che si deve esagerare la critica storica dei criteri, perché questa è una parte di tutto l'apparato in movimento, una parte, però dico ha un suo contributo, e talvolta ho visto che è preso troppo alla leggera, e spesso perché considerano i criteri soltanto separatamente. Per esempio ho visto Schumann criticare Bultmann e il suo criterio di discontinuità. Sì, se si concepisce così la criteriologia, bene, ma non si concepisce così la criteriologia. Non è affare di un criterio. In molti casi abbiamo una convergenza di tutti i criteri. È una cosa che sorprende, veramente. E qui diventa una cosa forte che appoggia. Altrimenti saremmo dai guai. Saremmo dai guai, penso. Cioè, io dico negligere nessun mezzo. Nessun mezzo. E non modo unilaterale, non separare i criteri, non separare la critica letteraria e la critica storica, ma unire tutto questo per ritrovare un Gesù già significante, però superato come intelligenza di sé attraverso la resurrezione. È difficile equilibrare questi elementi, però lavorando soltanto sull'istanza storica, è per forza l'accetto, l'enfasi è molto sull'istanza storica, ma non è completo per niente. Non è per niente la fondamentale totale, per niente. È un piccolo aspetto della fondamentale, l'istanza storica. Un altro ha parlato dell'istanza filosofica, un altro sociologica, eccetera. Quindi è un piccolo dipartimento, un'istanza, nient'altro. Perciò non vorrei sopravvalutare questo aspetto, ma penso che ha qualche contributo valido. Ritradotta in quest'altra terminologia la sua obiezione, vediamo se posso. La precomprensione di fede, sì, introdotta più genericamente nel criterio della simpatia, della precomprensione di uno storico, aiuta soltanto a entrare dentro nel significato, a capire i significati, o a livello di criteriologia storica è un aiuto per discernere ciò che è realmente avvenuto? Direi che il credente è nella situazione ideale. Non posso domandare a un ateista che sia l'uomo ideale per capire che cosa è la certezza o la filosofia positiva, vera. Non posso domandare a un tipo completamente immorale, a un bandito, di capire che cosa è la santità. È il santo che capirà meglio che cosa è la santità. Perciò dico che la posizione ideale per capire i Vangeli, finalmente il credente, perché vede le cose da dentro. No, per accertarne anche il contenuto storico, questa è la domanda. Qui, non soltanto posso fare un esempio al contrario. Sì, dico. I cristiani per anni non hanno mai capito cosa è realmente accaduto nel marxismo. Perché? Per la loro precomprensione si sono tagliati fuori la lettura di ciò che è, di ciò che è accaduto, di ciò che ha significato per milioni di uomini il marxismo. Sì. Allora sì, il problema è questo. Bene, ognuno ha le sue precomprensioni. Sì, è vero. Il problema è che cosa ci può unire, che cosa allora può costituire tramite nell'esprimere la credibilità del proprio messaggio. Sì, io penso che saranno delle, penso che sono delle vie privilegiate per questo. Dipende a chi io parlo. Se io parlo per esempio a marxisti per cui il significato della realtà, l'assoluto, finalmente è il progresso assoluto del mondo e dell'umanità. È certo che a questo momento anch'io io parlerò del lavoro, della ricerca, della tecnica, della tecnologia, del progresso, parlerò come lui e mostro, anzi, mostro che lui, senza saperlo, risponde all'oggettivo di Dio, al disegno di Dio. Di fatto, lo sappia o no, lavora nella linea del disegno di Dio che ha preso l'uomo come alleato del suo lavoro, però non ha capito tutti i significati. C'è una polivalenza dei significati, lui ne ha visto alcuni, ma non ha visto tutti gli aspetti. A questo momento possiamo camminare insieme e forse dire, beh, lei ha visto questo, io stesso penso lo stesso, il mio lavoro non è valido a causa della mia intenzione meritoria, per il cielo, lavoro per il cielo, il mio lavoro ha un valore prima della mia intenzione, perché c'è il disegno oggettivo, autentico di Dio, esiste prima di me, e io lavorando faccio soltanto dire il yes, il ita nuziale all'alleanza di Dio con l'uomo alla creazione. Quindi a questo momento camminiamo insieme. Lui non lo sa, io lo so, però il nostro lavoro è lo stesso e rispondiamo tutti e due fino a un certo momento, al disegno di Dio. Però i cristiani durante lungo tempo non hanno capito neppure che il lavoro era più che un'occasione per andare al cielo. Per lungo tempo. Lei vedrà il dizionario di teologia cattolica e tutte le realtà umane e terrestri sono assolutamente assenti. Niente lavoro, niente famiglia, niente maternità, niente sesso, niente femminilità, niente. Non esisteva niente della realtà terrestre. Allora, evidentemente, il marxismo dice che come si può capire? È vero che i cristiani hanno capito ben poco. Allora, adesso penso che abbiamo capito ciò che è perfettamente valido, però facendo, e qui è il grosso problema per noi, facendo del progresso indefinito dell'umanità, è l'assoluto. L'assoluto è Dio, Dio è il progresso finalmente, e qui a questo momento non siamo d'accordo. Ma durante un buon periodo di tempo posso camminare perfettamente con ciò che fa il marxista. A un certo momento però devo dire ci sono altri significati, altre dimensioni del lavoro che lei non ha percepito. Sì, scusi. Ghiberti e poi c'è Groppo. Devo domandarle. Ha detto che il lavoro storico non è tutto nella teologia fondamentale. E allora la domanda proprio banale, ma insomma. È possibile per un professore di teologia fondamentale che ha la sua esperienza mostrare nello statuto della teologia fondamentale dopo questo lavoro quali sono le tappe che idealmente lei vede ancora necessarie, se volesse fare una esemplificazione a proposito proprio di quel punto nevralgico che è la resurrezione di Gesù, eventualmente pensando a qualcuno delle presentazioni che in teologia fondamentale sono fatte su questo tema, che cosa la soddisfa e di dove invece si dovrebbe ancora partire per compiere il cammino ulteriore? Sì, questo è un bel problema, perché precisamente perché è vero, è difficile. Penso che durante non so quanti anni, ma per l'apologetica tradizionale, come si diceva, la resurrezione era un fatto storico, come gli altri fatti storici. Si prova la resurrezione come si prova un altro fatto, senza capire che qui c'è storia e metastoria, che è l'entrata di Gesù nella gloria. Quindi lo storico non è del tutto sufficiente e autonomo in questo campo, per niente. Può fare delle cose, non può fare altre cose. E penso che il contributo è importante della storia qui, ma non basta. Penso che il procedimento qui è un procedimento, direi, storico, strettamente teologico. Storico-teologico, ma non puramente storico, a causa della natura senza precedenti dell'avvenimento. Che cosa può fare lo storico, nessuno ha visto l'avvenimento. Che cosa abbiamo? Abbiamo delle tracce dell'avvenimento, abbiamo dei segni, delle tracce, non so che quale parola dire, ma è a partire di queste tracce che possono essere esplorate dallo storico, la riflessione teologica, propriamente teologica, potrà dedurre la realtà della risurrezione come la sola spiegazione coerente di tutte queste tracce. E questo è il lavoro teologico. Allora, che cosa farà lo storico per la resurrezione? Io penso che lui, per esempio, può constatare che dopo un fallimento assoluto, totale, radicale dell'impresa Gesù, che finisce come un bandito sulla croce, imprevedibilmente tutto inizia subito come la bomba atomica. È una cosa assolutamente incredibile. È un procedimento irrepressibile che continua attraverso i segni. Questa è una cosa che si può constatare. E un secondo fatto è il fatto che la resurrezione entra subito nel mondo liturgico e catechetico, nei primi inni, subito entra. Un altro fatto è la scoperta del sepolcro vuoto, attestato nel racconto antico di Marco. Un altro, le cristofanie attestate, dette dagli apostoli. Ma qui io insisto che nel sudrisotto abbiamo quasi niente. Un solo dato veramente preciso: il Signore è risorto ed è apparso a Simone. Era lui, noi l'abbiamo visto. Questa discrezione, che è formidabile per un avvenimento così grande, mi sembra un buon segno. Il risorto, dicono i testimoni, è vivo, l'abbiamo visto, è lo stesso, nient'altro. E questa è la cosa essenziale. I tentativi del linguaggio sono vacillanti, questo lo vediamo tutti, non sanno come esprimersi, vanno a parlare di risurrezione, di esaltazione, di glorificazione, di apparizioni, perché devono tradurre un avvenimento senza precedenti, con un linguaggio non trovato, non scoperto ancora. Come fare per esprimere questo? Ma una cosa è certa: il risorto è lo stesso che il crocifisso di prima, è lo stesso. E non guardare là, ma guardare ciò che ha fatto, è lo stesso, la stessa persona, non ha cambiato. Ciò che ha fatto l'ha fatto, ciò che ha detto aveva un senso e ha ancora un senso, però meglio capito. Perciò dico che è il passato superato come passato, è il passato ma superato come intelligenza del passato, certamente dopo questi avvenimenti. Un altro fatto è la conversione un po' formidabile di Paolo, che prima era persecutore molto tenace e dopo apostolo non meno tenace. Penso che la ricerca storica non può fare di più, è molto già, non può fare di più. Ma la riflessione teologica, a partire di questi fatti, di questa ricerca storica, cerca di spiegare questi fatti, perché devono essere spiegati. Cerca di spiegare e conclude che trovano una intelligibilità, un senso, come si dice oggi, un sens, un significato e una coerenza se ammettiamo come vero la realtà della risurrezione attestata, altrimenti tutto rimane enigmatico. Quindi per me, quando si dice storia e storia nei Vangeli, bisogna distinguere molte cose. C'è la storia dei racconti dell'infanzia, quella della passione, quella dei miracoli, quella della risurrezione, e non si può mettere sullo stesso livello tutto. C'è storia, storia, storia, storia, e bisogna distinguere bene, altrimenti siamo ingenui, mi sembra. Ma la mia domanda, se permesso, è passiva, sì. Da una esperienza. Fatto un ragionamento di questo genere con qualche insegnante di teologia fondamentale, si sentiva dire: ecco, è utile, però è di gran lunga non ancora sufficiente per il teologo della teologia fondamentale, perché di fronte alla risposta di fede che viene richiesta da un annuncio come quello pasquale, la riflessione di tipo storico è ancora troppo lontana, e mi portavano i discorsi di Rahner e di altri, di Stilleben e compagnia bella. Cioè, lo statuto della teologia fondamentale fa dei passi ulteriori per questa mediazione. Sì. Ecco, e la domanda mia è... Anzi, faccio di più. Quando presentavo la resurrezione, presentavo sempre anche in fondamentale la resurrezione anche come mistero di fede. Perché dico, presentare soltanto in modo magro la realtà brutale del fatto, della realtà, non soddisfa. È lo stesso per la rivelazione. Durante anni e anni si diceva rivelare la rivelazione e togliere il velo, e si faceva tutto il trattato della fondamentale così. Io sono stato contestatario, e se ho scritto per esempio questo libretto Teologia della Rivelazione, era precisamente per questo. Gli ho detto, non si può riflettere anche criticamente in fondamentale senza studiare la realtà che si critica. Direi un po' lo stesso per la risurrezione: la riflessione critica che si fa, storica e altra e filosofica, se si fa indipendentemente della realtà totale presentata, anche se non siamo ancora in terra puramente di teologia dogmatica, faccio della dogmatica. Io penso che oggi come oggi non si può non fare un po' di dogmatica in fondamentale, come non si può fare momenti di fondamentale in dogmatica. La dogmatica è costretta a fare lavoro di fondamentale, ma spesso nel suo lavoro abbiamo troppo separati queste cose. Se la realtà non è separata, perché separarla così? Perché dire il fatto della rivelazione, il mistero della rivelazione, il fatto della risurrezione, il mistero, la Chiesa, il fatto della Chiesa, il mistero della Chiesa, questo complica il nostro lavoro di presentazione, certo, ma penso che è assolutamente necessario far capire agli studenti che noi studiamo un aspetto di una totalità molto più grande. Qui è un approccio che mi sembra più valido. Perciò io oggi come oggi non ho paura di fare dogmatica in fondamentale, cioè dei momenti di dogmatica, poi faccio il momento critico. Troppo? Il mio problema è un po' diverso da questo, e consiste in questo: se noi ammettiamo seriamente la comprensione, la precomprensione come un elemento centrale necessario per ogni interpretazione di un fatto, per cui non esiste il fatto puro ma esiste il fatto interpretato, anche la fotografia è una interpretazione del reale, io mi domando se lo storico, utilizzando i mezzi che l'ermeneutica storica gli ha offerto, può essere contento di questi mezzi o se non deve ricorrere ad altri strumenti. Esempio, nel caso in cui lo storico ha capito che per entrare al dentro di un fatto è necessario tener conto del progetto, dell'opzione e della realizzazione, se però esiste l'inconscio, allora, non è più questa la situazione della persona che progetta, ma è l'inconscio, razionalizzazione, pseudomotivazione, progetto, scelta, opzione e realizzazione. Se il complesso di Edipo è una realtà strutturale che esiste al di dentro di ogni rapporto umano, anche Cristo l'ha avuta. Sì. Allora, è possibile risolvere il problema sottraendo Cristo, sottraendo il Santo, sottraendo qualcuno al complesso di Edipo, sottraendo alla realtà dell'inconscio, o bisogna metterla dentro? però se si ammette l'indolore, quali strumenti io dovrei avere per poter arrivare a una interpretazione? No. Confesso che ciò che ho detto per esempio sul progetto era piuttosto stilizzato, è evidente che era stilizzato, si dovrebbe mettere delle sfumature, perché non ho affrontato per niente, ho preso piuttosto dei casi all'apice, che sono così delineati che appaiono molto più chiaro, ma non risolve l'oscurità di cui lei parla. Però per esempio nel caso del complesso padre, per esempio, beh, certo può esistere nel subconscio, però nella presentazione di Dio che fa Cristo, maior dissimilitudo quam similitudo, cioè il salto è qualitativo, è così grande l'amore di Dio per gli uomini, è una cosa talmente incredibile, veramente unglaublich, è quasi incredibile, che appena vale ancora il paragone con i nostri amori umani, i nostri complessi umani. È un salto qualitativo. Io dico spesso agli studenti, poveri noi, pensiamo capire l'amore di Dio. L'amore di Dio che è così potente, onnipotente, che ha permesso all'uomo di dire no a Dio. E Dio ha fatto niente, ha fatto soltanto una cosa, ha disarmato e ha mostrato un amore ancora più grande a colui che l'ha ferito. Arrivato a questo punto siamo in un salto qualitativo. È un amore che supera ogni limite. Come capire che l'amore possa rischiare una cosa così e rispondere alla morte che mi è data, restando fedele, rispondendo con un amore ancora più grande, con una fedeltà più grande, l'amore disarmato di Dio di fronte alla morte che viene da noi. È un tipo di amore, siamo completamente sbalorditi, si capisce più niente perché Dio, perciò dico vale sed maior dissimilitudo, ma confesso che per la prima parte di cui ha parlato lei, è vero che ho stilizzato che si dovrebbe completare delle cose. Serafini? Io vorrei un contributo, ho di luce su un'esperienza che sto conducendo su religioni, vie di salvezza. Ho bisogno di 5 minuti. Dunque, io sono a Francia, a Cina, una famiglia. Guarda forte. E sono a pranzo perché sono a cena perché ho un bambino alle elementari che io ho rappresentato il Cristo, è l'unico a farsi cristiano, è in quarta elementare. E io vado lì e dico alla mamma che io lascio un barco, se noi siamo liberi però non vogliamo, non sono sposati. Sono di salvezione cattolica, lui è scout, lui ha studiato con le suore lei a Roma e non ha battezzato i tre figli. Perché? Perché non vogliamo che abbiano nella loro educazione le conseguenze negative che abbiamo avuto noi nella nostra educazione cattolica. E allora dice, li abbiamo educati bene, sono veramente educati bene tutti i maestri. Devo dire a te mamma 10 con 9. E poi dico, lei mi dice, ma insomma tutte le religioni sono uguali. Io dico, no, io direi così, hai un po' ragione. Tutte le religioni portano la salvezza. Anche la tua, che è una religione naturale, lei dice, io ho sofferto, ho accettato la sofferenza, ho accettato la morte e accetterò la mia morte senza bisogno di ricorrere a Dio. Con la morte tutto è finito. Sulla soglia della casa, rientrando, vedo un bigliettino, è il bambino che ha fatto un diario della sua vita e conclude così. E poi ci sarà la morte del bambino di terza, elementare. E io non ci sarò più. E dico, chi ha scritto? L'ha scritto detto Giulio, ma sei stata tu madre a scommettere la vita, che tu credi te. Sì. E allora mi dice, tutte le regioni sono uguali. Io uso allora questo paragone. Non sono tutte portano la salvezza, però io vedo fra la mia religione e la tua, che è vera, autentica religione naturale. Non so se sono esatto. E ti lo dicevo. E dico, c'è questa differenza, mi viene fuori questo paragone. Tu tutti i giorni per vivere vai, scendi giù dal quinto piano e vai dal panettiere a prendere il pane, questo ti permette di vivere, è un valore essenziale. Io sono più fortunato di te, ho il panettiere che mi porta il pane in casa. Questa è la differenza. Tutte le religioni sono un cercare Dio. Io ho studiato un po' a Milano di Islam, di Induismo. Sartori mi ha sensibilizzato a tutti i problemi ecumenici, io mi trovo bene così. E dico, ecco, io ho questa fortuna che mi porta. La signora mi dice, ma se uno mi porta il pane tutti i giorni gratuitamente, io le devo essere riconoscente. Ecco sì, questa è la morale cristiana. È l'impegno cristiano. Allora mi dice, io non sono preparata a questo impegno, però vedo che tu sono sorto, hai tante cose da fare, di cultura così, hai tanti ragazzi da seguire, cosa concludono? Alle 2:30 concludono questo. E noi due verremo ad aiutarti negli scout e faremo un cammino di catecumenati insieme. La prossima volta mi detto che mi racconti, io ho raccontato la mia storia. Sì, sì, sì. Ho visto che forse avete fatto un incontro con un certo tipo di chiesa, anch'io ho fatto un incontro con un certo tipo di chiesa che mi ha fatto soffrire, mi ha bastonato, Sartori, va bene? Lei lo sa perché io torno bastonato, ho rifiutato la tesi, mi ha negato l'onore delle armi in Milano a discutere una mia tesi e io sono venuto da lei e mi ha accettato alla Gregoriana dopo un semestre. Alla Gregoriana ho discusso dopo, qui non mi capisce il padre Grasso, non mi capisce niente, l'angelo Mastroianni è morto, che non aveva capito. Comunque io ho concluso la tesi. Dunque, questo paragone dei due del pane, no, va bene o no? Ecco, abbiamo fatto l'antipasto. Lei cosa dice? È d'accordo? Beh, io ascolto con grande interesse, veramente. Ma il problema che è stato sollevato da Don Groppo e anche da Don Ghiberti è il problema di come strutturare, penso, anche la fondamentale. Io penso che si deve ristrutturare di nuovo, completamente. Ecco. Per questo io all'inizio dell'incontro ieri sera avevo detto diamo una definizione provvisoria, ma alla fine del convegno, eventualmente questa sera nella tavola rotonda, qualche cosa dovremmo cavare anche di conclusioni. In che misura l'istanza storica, quella filosofica, le altre scienze devono entrare, se il teologo fondamentalista deve recepire soltanto o deve creativamente fare qualche cosa, reagendo all'istanza storica. Per esempio ciò che diceva Don Ruggeri, che tocca finalmente l'antropologia, l'antropologia filosofica, per me diventa un settore molto importante. Io penso che prima di parlare di Dio, di Cristo Dio tra noi, io penso che c'è una tappa molto più importante prima. Questo Gesù di Nazareth, con il suo messaggio che io posso ritrovare sostanzialmente, questo Gesù ha veramente un senso profondo e più alto che si può immaginare per decifrare me, i miei problemi, per esempio il mio lavoro, la mia ricerca scientifica, la tecnica, la tecnologia, la morte, la sofferenza, tutto. È una lunga riflessione antropologica che mira a dire questo messaggio di Gesù ha un senso, è così sensato che fa sorgere la domanda ma chi è lui? Ma non dire subito chi è lui attraverso delle prove. Io penso che è un passo troppo precipitato. Perciò io penso che nella fondamentale di oggi si deve essere un passo storico bene, un passo filosofico, ma un passo per esempio di tipo antropologico, che cerca a mostrare che il messaggio di Cristo è a tal punto sensato, a tal punto intelligibile, illuminante per i nostri problemi di poveri uomini, che una intelligibilità più profonda non la troviamo. Quando la gente ha capito questo, si può fare il discorso avanti e parlare, ma chi sarebbe questa persona? Chi sarebbe questa persona? Io penso che abbiamo trascurato delle tappe, abbiamo voluto correre troppo per fare un nuovo con un nuovo convertito. Bene, sì. Concludiamo adesso, vedo che siete un po' stanchi. La convinzione dell'importanza